Allora, Crucelli, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Capisco perché alcuni vengano alla zanzara, perché voi siete degli stronzi, due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere, quindi avete rovinato più carriere voi, però la zanzara ha fatto parecchie vittime, mi sembra. Ogni tanto nella vita succedono delle cose bellissime, delle cose straordinarie. Chi poteva mai immaginare, 50 anni dopo, che tre signori, di cui due facenti altro mestiere, non quello del giornalista, tre signori ebrei, sarebbero stati rinchiusi di nuovo in un campo di concentramento? Beh, 70 anni dopo. 70, sì, scusami, 70 anni dopo. Beh, tutto questo è stupendo, è meraviglioso, ma no, no, ovviamente, beh, è meraviglioso, è stupendo. Tre signori ebrei 70 anni dopo, perché ho detto 50? Ho sempre in testa 50, non so perché. Non lo so, 1945. Sì, è vero, sì, sì. Se vuoi possiamo fare 50. No, no, facciamo 70. Tre signori ebrei, di cui un inviato con la kippah della televisione italiana Matrix, Mediaset, trasmissione Matrix, che sono stati rinchiusi per circa 6 ore nel campo di concentramento di Auschwitz. Anzi, si può dire, si sono autorinchiusi, questo bisogna dirlo. Questo sì, amico mio, sì, sì. No, questa è una sciocchezza, è molto... Beh, io non ho capito una cosa, adesso ricapitoliamo per chi non sa questa storia. Allora, tre signori, il signor David Parenzo, Perugia, no, veramente 5. Vabbè, sì, però tre, diciamo, tre ebrei, però diciamo, poi gli altri erano... due camere. È differente, diciamo, la nostra. Beh, no, non è indifferente, non è due camere, ma perché scusa, avevi ieri sera la kippah durante la cosa e dice indifferente. Come fai a dire che è indifferente? È incredibile, è indifferente. Quello è un cimitero e quindi, ma vuol dire, ma fai, vabbè, lasciamo perdere la questione della kippah, ne parleremo più avanti. Però indifferente, non è indifferente, è divertente per questo, altrimenti tu dovresti essere un uomo di spirito, dovresti apprezzare le battute, immagino, no? Perché poi non è successo nulla, non eri in Afghanistan. Cioè, oggi hai fatto un tweet in cui hai ringraziato tutti, l'ambasciata italiana, giustamente, chi sei interessato, eccetera, come se fossi stato liberato dalla prigionia dell'ISIS. No, perché era una questione kafkiana, quasi di essere un film di Woody Allen, quasi. Ma sì, d'accordo, ma non era. Ma non eri. Sì. Che si è mobilitata immediatamente. Ma certo, non c'è dubbio. Ma certo, vai, beh, d'accordo, però non è. Non eri rinchiuso come quelli dell'ISIS. Uno dice ringrazio tutti, la Farnesina. Non eri come rinchiuso in una prigione, eccetera. Ma no, vabbè, la cosa era allucinante, incredibile, 6 ore, meno nove gradi. Beh, non c'era più nessuno, stupendo, non riuscivamo a entrare, stupendo, a uscire dal campo. Stupendo. Ma no, vabbè, si può anche ridere, ovviamente. Ma si deve ridere, però. Si deve ridere. Io ho riso subito, sin dall'inizio. Tutto il mondo si è messo a ridere. Tutto il mondo si è messo a ridere, tutti quelli che lo hanno saputo sono messi a ridere, perché è chiaro che questa situazione si sarebbe risolta, no? Cioè nessuno infatti sei qui a parlare. Auguro, all'inizio la polizia ha detto siete in stato di fermo per 48 ore. Beh, bellissimo, bellissimo, la polizia polacca che fa il suo dovere fino in fondo. I poliziotti, oggi l'ambasciata polacca a Roma ha fatto un comunicato in cui ha detto che la polizia ha semplicemente messo in atto dei dispositivi di sicurezza che in occasione della visita dei capi di Stato ma non c'erano più i capi di Stato, amico mio, ma che c'entra? c'entra? Rimangono? Cioè, ma adesso Parenzo contesta la polizia polacca. Parenzo contro la Polonia. Adesso di qualcosa contro la Polonia. Parenzo contro la Polonia, no. Contesto la versione della polizia polacca, diciamo. Contesta la versione della polizia polacca. Ma sì, avranno messo a disposizione, avranno messo in atto il loro sistema di sicurezza. Certo, il loro sistema. Che vuoi contestare il sistema di sicurezza della Polonia? Vuoi contestare il sistema di sicurezza della Polonia? La catena di comando di questo sistema che fa sì che non c'era nessuno dentro il campo e che noi non riuscivamo ad uscire a un certo punto. Ma perché? Ma c'erano i guardiani là, le guardie private che se ne sono andate. Parlate con. E perché se ne sono andate? Lo sai perché se ne sono andate? Eh? Perché sono andati via, Parenzo? Perché vi hanno lasciato lì? David? Sono portati via i polacchi. Spettacolare, spettacolare. Va bene, la questione dei fuoriusciti del Movimento 5 Stelle che ieri sono stati assaltati. Assaltati, sono stati criticati in maniera vigorosa, in maniera piuttosto forte da alcuni militanti dei 5 Stelle. Alcuni militanti dei 5 Stelle sono stati semplicemente criticati, dico io, certo, con parole forti, li hanno chiamati traditori, eccetera, eccetera, ma l'aggressione fascista. Sono storie laterali rispetto al grande fatto di cui sono stato. No, che storie laterali, ma non dire stronzate, non dire stronzate. Queste sono storie laterali rispetto a una roba di cui ha parlato di già tutto il mondo. Ma quale il tutto il mondo? Ares. Vabbè, no, tu non sei informato. Vabbè, non me ne frega niente. Ares. Andiamo avanti con la trasmissione, poi ne parleremo. Abbiamo tutto il tempo. Andiamo a sentire cosa è successo fuori ieri sera, fuori da Largo del Nazareno a Roma. Sono volate altre parolacce, pezzo di merda, non hai un'anima, venduto, e cioè, che succede là, scusa? Sono con i bracci in piccolo. Ma scusa, ma noi non ce ne frega un cazzo, amico mio, ma non ci interessa a noi, scusa, ma abbi pazienza, ma stiamo facendo una trasmissione radiofonica, ma un minimo di dignità, di compostezza, di professionalità, col... Ma chi se ne frega col bambino in mano? Ma è incredibile. Io non so che devo fare, cioè non. Ma non, non so. Ma dallo alla babysitter, no! Dallo alla babysitter, alla madre! Una roba pazzesca, dai, pazzesca. David? Sì, diciamolo, dai, diciamo. Mi dispiacerebbe andare a fare in culo. Ecco. Allora, uno di quelli fuoriusciti dai 5 Stelle, si chiama Segoni, dice che sono stati squadristi e violenti. Sì, è una cosa assolutamente indecente, che quantomeno è la dimostrazione che abbiamo fatto la mossa giusta. Siamo usciti da una forza politica che è diventata squadrista e è diventata violenta. Cioè, vi chiedo se vi sembra normale, 9 deputati abbandonano una forza politica e invece di farsi domande sul perché... La Lega e Fratelli d'Italia propongono Feltri. Propongono Vittorio Feltri come Presidente della Repubblica, sarebbe straordinario. Dopodiché Feltri qualche giorno fa ha detto, sentite. Io, sai che Salvini ha detto che vorrebbe te al Quirinale? E questo dimostra che non solo abbiamo raschiato il barile, non c'è più neanche il barile. Abbiamo con noi il mitologico Mario Michele Giarrusso, cittadino del Movimento 5 Stelle. Ce l'ho fatta finalmente. Bravissimi. Come andiamo? Ha sentito bene, Parenzo? Bene. Vuole dire meglio. A Parenzo, vuole fare, come dire, no? È contento che si è salvato? Ma noi stiamo inoltrando una nota formale di protesta col governo polacco. Sì, perché non ve lo siete tenuto? Perché hanno liberato un individuo pericolosissimo come Parenzo. Dovevano buttare la chiave. Ma perché lo hanno liberato? Cioè, noi protesteremo con forza e con vigore. Hanno danneggiato l'Italia. Dovevano tenerlo là, giusto? Capisco la simpatica ironia di Gianluca. Ma qual è il problema? No, dai, su, ma David. Ma stavamo organizzavamo dei viaggi per andare a trovare, portavamo le arance, ma sì, le noccioline, sì. Insomma, lei qualche capisce... banana gli tiravamo, dai. Ma lei capisce, senatore Giarrusso, la cosa incredibile da film comico, nemmeno una sceneggiatura, cioè tre signori ebrei, tra cui Parenzo, caro Giarrusso, i rinchiusi nel lager, rinchiusi sei ore nel lager con la polizia polacca. Ma veramente neanche la più sfrenata delle fantasie poteva immaginare una cosa del genere. Veramente, cioè, Parenzo è insuperabile. Insuperabile, veramente. Non c'è da fare, insuperabile. Bisogna dargli atto che veramente... Viene da sospettare, caro Giarrusso, che in realtà l'abbia fatto quasi apposta, diciamolo, si è rinchiuso. Secondo me lui è così, no, non l'ha fatto apposta, no, no, ma no. Proprio gli viene naturale, è un talento naturale per i guai, veramente. No, ma secondo... Ma io lo ammiro per questo, mi piace. volevo venirlo a trovare. Ma no, ma io capisco che il vostro movimento è fondato da un comico e quindi tutto fa ridere. Questo, beh, questa roba qui fa ridere tantissimo, però fa ridere tantissimo, anche perché i rischi sono stati veramente pressoché zero, diciamo. No, ma non è questione dei rischi, è questione della dinamica, zero, erano sotto zero, no? Sì, quello sì. Senta, senatore Giarrusso, dato che Parenzo non ha voglia di scherzare, vabbè, ognuno ha la sua... Ma che capisce, una cosa gravissima. Guarda, dalle 9 della sera, sì? Fino alle 5 del mattino. 9 di sera no, perché... Caspita, di freddo ne hanno preso. Diciamo, parecchio freddo. Senatore Giarrusso, io voglio capire una cosa, ma qui parlano di aggressione fascista nei confronti di Rizzetto e questi fuoriusciti. Ecco, questo fa il paio con la cosa di Parenzo, no? Perché noi abbiamo... Avete visto i video? Sì, sì, ho visto i video. I video c'erano esattamente 10 cittadini con i cartelli che dicevano ridateci i nostri voti, dimettetevi, gli impegni presi in campagna. Beh, anche qualche mala parola, come dice poi lei. Poi c'erano 30 poliziotti e 40 giornalisti. I più pericolosi erano i giornalisti. Come i più pericolosi erano i giornalisti? Ma li hanno picchiati, ma hanno picchiato loro, il povero... Ma come hanno picchiato loro? Ma se c'è il video, un giornalista l'ho preso di peso alle forze di polizia. Cioè lei dice erano più pericolosi per l'incolumità di Rizzetto, sì, e questi più pericolosi, vero, i microfoni... Hanno preso un giornalista, hanno preso di peso alle forze di polizia e l'ho portato via, perché era troppo scalmanato. Cioè, temevano che con qualche telecamera ammazzassero il povero parlamentare. Non era giusto, quello non era giusto. Dici no. Lei no. Dice la violenza nei confronti di Rizzetto, no. Ma lei come li considera? Tutti in banana di gelato, come lo chiamate voi in termine tecnico, no? Tutti là a menare il povero Rizzetto col gelato, con la banana. Però scusi una cosa, ma lei pensa che siano legittime anche parole come venduto, traditore, pezzo di merda? Allora, se noi dobbiamo valutare, diciamo, l'estetica della protesta, le proteste non sono mai belle a vedersi . E la situazione non è affatto bella. Vabbè, quello d'accordo. Dobbiamo dire però che è legittimo protestare in democrazia. No, ma io sono d'accordo su questo. La gente arrabbiata non è bella a vedersi, ma la situazione dell'Italia non è bella. Dobbiamo consentire alle persone di protestare anche in maniera... Cioè lei sta dicendo è legittimo protestare in maniera veemente? Sì. Secondo me sì. Cioè dare del pezzo non di merda, deve, dare del pezzo di merda. Non si deve trascendere, ma io ho visto i video, non si è trasceso, ma certamente la gente è arrabbiata. Ma dico, cioè dire pezzo di merda a qualcuno, secondo lei fa parte di una legittima contestazione? No, questo qua assolutamente, dico, tranne che a Parenzo, insomma, che insomma si può dire in alcune, nemmeno in alcune circostanze, però insomma bisognerebbe evitare, ecco, questo sì. Però ma scusi, ci sia gente arrabbiata che si senta tradita. Questo sì. Senta, Rizzetto e soci, questi qua che sono usciti, lei li considera comprati da qualcuno? Cioè si sono venduti? Guardi, mi dica come la pensa, no, in maniera molto, no, no, molto io, sincera, non si trattenga come al solito. Assolutamente. No, guardi, non ho seguito le storie personali. A me questo passaggio dispiace soprattutto perché hanno mancato un elemento fondamentale di cui avevano preso l'impegno. Noi tutti quando siamo candidati abbiamo firmato un impegno che in caso di difficoltà a permanere uno si doveva dimettere. Abbiamo preso l'impegno di rimetterci. Ora quando una persona... Vabbè, d'accordo. Ma secondo lei perché l'hanno fatto? Loro dicono perché non c'è democrazia, perché ormai... Ma guardi, la prima spiegazione è perché non abbiamo fatto le grinarie. Ora, come lei si rende conto che è una stupidaggine questa cosa, le dico di più. sapevano che oggi ci sarebbero iniziate la prima fase delle finali. Lo sapevano, sa perché? No, glielo dico perché. Vabbè, ma allora che hanno fatto? Cioè... No, la vuole sapere questa anteprima. Noi abbiamo in corso varie selezioni online, votazioni online. Sì, per il Quirinale, lo sappiamo. No, le abbiamo in corso per le regioni. Sì, e allora? I comuni che devono andare alle votazioni hanno chiesto di farle su base locale. Dunque? Come è stato fatto a Reggio Calabria, eccetera. Bene. Che cosa è successo? Da giorni si diceva non possiamo fare le votazioni online per i comuni perché stiamo intasando i server con le regionarie e le quirinarie. Quindi si sapeva che si stavano preparando per le quirinarie e lo sapevano i parlamentari. Vabbè, allora è tutta una scusa. Che cos'è che le ha portati a uscire? Mi spieghi, Gianrusso? Non lo so, c'era un malessere da tempo. No, ma qualcuno parla chiaramente di compravendita. Secondo lei è vero che c'è stata una compravendita in atto, sì o no? Io non ne so nulla di compravendita. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? Grande Parenzo! Siamo sotto sequestro. Ma dove siete in questo momento? Dentro Auschwitz, sotto sequestro, aspetta. Ecco noi Michele Gianrusso, Movimento 5 Stelle, cittadino del Movimento 5 Stelle al Senato. Vorrei capire una cosa. Allora, lei ha detto che la stampa è fascista. No, non ho detto. Beh, come no, oggi l'ha detto. Oggi l'ha detto. Ho detto che la stampa che accusa chi protesta di essere fascista è fascista. Appunto, sì, la stampa. Perché si cerca di reprimere il dissenso. Ora, è nelle dittature. Avete visto che è successo in Egitto? La gente è scesa in piazza a protestare con i cartelli. Certamente non diceva delle parole gentili nei confronti del governo. È stata presa a fucilata, la gente è morta. E allora? Allora, succede nelle dittature che si reprime il popolo. Cioè, lei sta dicendo che in coro la stampa ha dato dei fascisti a quelli che hanno contestato Rizzetto e company. Mentre in Egitto si spara, qua si usa semplicemente un cannone più potente che non ammazza, ma che distrugge. E sono i mass media, quindi chi si accoda subito la violenza, cioè semplicemente perché la gente protesta, questo è fascismo. Però, scusi, è un manganello mediatico. No, ma ho capito e sono anche d'accordo con lei, perché io ho visto l'immagine e si tratta di una protesta legittima da parte di un piccolissimo gruppo di cittadini, certo espressa attraverso parolacce. Ma le proteste non sono eleganti, se noi vediamo che la gente che sciopera. No, quelle erano le scene eleganti. No, difatti queste sono scene che non sono. Qualcuno ha detto scene che non vorremmo vedere. Nessuno vuole vedere la gente arrabbiata che protesta. I primi sono quelli che sono arrabbiati e che protestano. Avevano ragione a essere incazzate, sì. Secondo me sì. Ma a sputare invece gli sputi? Ma allora, dipende. Su Parenzo c'è una diversità di opinione, fra, diciamo, il 49% degli italiani pensa che non sia il caso di sputare su Parenzo. E il 51% sì. C'è un 51% che... No, però adesso, a parte Parenzo, secondo lei lo sputo è legittimo? È paradossale, mentre si parla di fuoriusciti lui è stato internato, ma veramente... Sì, questo pure ma è bello. Hanno riso il 100% degli italiani, veramente, anche chi... Senta, ma lo sputo è legittimo? Sì, vabbè, tanto Parenzo c'ha i cazzi suoi oggi. Ma lo sputo, come sempre, peraltro, ma lo sputo è legittimo? No, sento, Sì, allora, sì, ripeto, sì. Sì, sì, ma ti sento. Uno può anche stare a cagare e dire ti sento. Sì, certo, uno sta caga e dice ti sento, però poi sta cagando. Cioè, può fare quello che vuole uno nella vita. Cioè, facciamo tutta la trasmissione così, fai sentire il bambino. No. Un attimo, Gianrusso, fai sentire solo, io voglio sentire solo il bambino per 3 minuti di seguito. Fallo parlare. Vai, parla. Ma no, non parla. Parla! Ancora, fallo parlare, fallo. Ma fallo parlare, fagli dire qualcosa, fallo blaterare di qualche cosa, no? Cioè, Gianrusso, Berlusconi, facci dire qualcosa. Non piange perché siete Gianrusso. Non ho capito, uno è pieno di. Vabbè, lascia. La bocca mia, la mia bocca. Gli sputi, però, sono legittimi in alcuni casi. Giarrusso. Giarrusso, si comporta male. Giarrusso, gli sputi sono legittimi in alcuni casi, no, o no? No, assolutamente. Però io devo dire, non ho... poi magari al video non si veda. Assolutamente, no. No, no, non so. Noi dobbiamo... Senta, lei chi voterà nella votazione domani? Come? Chi voterà domani? Io voterò quelle che mi verrà indicato dal, come dal movimento tramite le primarie che si terranno domani. Vabbè, ma lei pure voterà. Certo che voterò. È iscritto, voterà personalmente. Certo chi, che voterò. Per chi voterà? Ma io già ho dato la mia indicazione oggi, non so se avete seguito. Sì, chi è? Carlassare? Chi è Carlassare è imposinato. Che vabbè, quanti se ne può votare? Uno o due? Credo che se ne possa votare uno. Uno, e chi voterà lei? Purtroppo la Carlassare si è tirata indietro. E dunque voterà imposimato. Voterò imposimato che comunque... Ma perché non decidete direttamente senza fare questa... Io quella la ritengo veramente una buffonata, quella di votare online. Perché non decidete direttamente per mettere in difficoltà... La politica è fatta anche di queste cose, per mettere in difficoltà Renzi. Anzi, imposimato non diventerà mai Presidente della Repubblica. Posso dire una cosa, ma allora, decidete di votare Bersani, oppure Prodi, così mettete un po' in difficoltà Renzi, o no? Però lei pensi un attimo, lei pensi solo un attimo, di essere un cittadino che per la prima volta nella sua vita... Lei può da casa sua col suo computer per il fatto di essere iscritto. Vabbè, ma è un gioco, dai, su. Non è un gioco, perché poi noi andiamo a votare in Parlamento quello che. Ma è una super minoranza di cittadini. È una non sono una minoranza, siamo più di 130. Non è una minoranza. Ma sì, figuriamoci. No, ma una super minoranza. Abbiamo detto un'altra cosa importante, che forse vi è sfuggita. Io lo capisco, era preoccupato. Sì, che a partire dalla quarta votazione, a partire dalla quarta votazione, poi ci sarà la possibilità di una votazione convocata d'urgenza. Quindi noi abbiamo messo praticamente. Senta, un'altra notizia di oggi. Scusi, Giarrusso, questo ho capito benissimo. Un'altra notizia di oggi. No, ma è una cosa importante. Sì, no, ma l'ho detta. Un'altra notizia di oggi è che hanno poi si deciderà nei prossimi giorni. Hanno cancellato la riduzione della pena per Corona, che dunque la pena per Corona resta a 13 anni. Perché non fa una campagna pro Corona lei per la liberazione di Corona, Giarrusso, o no? Guardi, abbiamo tante cose importanti di cui occuparci. Cioè, resti in galera fino a... occupato veramente di Parenzo rinchiuso in Polonia. Ma di Corona no? No, francamente non... Cioè, non è un simbolo della mala giustizia, insomma, no? No, non credo per proprio. Per fortuna non ve ne siete occupati voi della via Liberazione, per fortuna. Liberazione. Me ne volevo occupare, Parenzo, non mi hanno dato il tempo. La Liberazione. Che lo hanno liberato prima che me ne potessi occupare. Vabbè, dai ragazzi, grazie Giarrusso, a presto, arrivederci. Buonasera. Ma noi stiamo inoltrando una nota formale di protesta col governo polacco. Perché hanno liberato un individuo pericolosissimo come Parenzo? Dovevano buttare la chiave. Guardi Cruciani, io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio pieno di contraddizioni, perché è nel contrasto che c'è la vita, se no è come tutte le altre trasmissioni, e allora che facciamo? Allora, prima di essere rinchiusi ad Auschwitz nella serata polacca di ieri, durante la trasmissione Matrix, ci sono state alcune cose molto interessanti, alcuni scontri pazzeschi. Per esempio quello tra Massimiliano Parente, numero uno assoluto, Massimiliano Parente e lo stesso David Parenzo e anche il signor Riccardo Pacifici, esponente di spicco della comunità ebraica e romana, nonché italiana. Sentiamo questo spezzone, Parente versus David. La critica è allo zuccotto, così lo chiama Parente, che ha in testa David Parenzo. Cioè, vedere Parenzo con lo zuccotto per me è un genocidio di persone. Sono 6 milioni di persone che sono state sterminate. Guardi, se poi si invoca Dio, Dio non esiste. Mi permetta, scusi. No, no, sì. No. ognuno fa le scelte che vuole per onorare i suoi morti. No, ma lei secondo me ha detto una sciocchezza, lo dico con rispetto per il posto dove sto. Le spiego il motivo per cui io e anche il presidente Pacifici, lui lo porta sempre perché è più religioso di me, diciamo. Io mi sono messo la kippah perché questo è considerato per il popolo ebraico il più grande. La kippah, certo. Mi sono messo la kippah perché questo per il popolo ebraico è il più grande cimitero della storia. E quando si va nei cimiteri di noi ebrei, ci si copre la testa e ci si mette la kippah. Come in segno di rispetto, quando si entra in una chiesa ci si toglie il cappello, come quando si entra in una moschea ci si tolgono le scarpe. Regole che lei è libero di non rispettare, ma se lei va a casa degli altri, questa qui non è certo casa mia, è un luogo di memoria, ma è soprattutto un cimitero. Per rispetto verso quei morti che ci sono stati, io ho messo la kippah. Ma io rispetto i morti, non come forma di morte, mi sembra una polemica. Ma quale polemica? La sua è una polemica fuori luogo, amico. Ma quale polemica fuori luogo? Non è possibile, non è possibile definire una persona come una religione, un giro di giorni. Scusa, intanto lei è un ignorante. Lei è un ignorante, il popolo. Sono un ignorante. L'ebraismo non è una religione, l'ebraismo è un popolo. No, no, lei è un ignorante perché quando definisce l'ebraismo una religione non ha capito. L'ebraismo è un popolo. Noi siamo un popolo e lei non può dire che chi porta la kippah in testa è come se commettesse un genocidio. Lei offende e si dovrebbe vergognare. Chi l'ha detto che è come se commettesse un genocidio? Io l'ho sentito con le mie orecchie, però. No, ho sentito. Ho detto che è come se commettesse un genocidio. Questa è stata la frase. Voglio sentire. La Scampini. Meglio dire sì. Ho sbagliato perché sì. È più semplice. Sentendo bene le cose, effettivamente Parente dice che mettersi una kippah in testa, lo zuccotto è da genocidio e che non c'entra una mazza. Ti annuncio che ne ho parlato poco fa col presidente. Okay. Il tribunale querela? Lo denunciamo, certo. Lo denuncia. Denunciato Parente. Ma dai su. Ma basta con queste cose. Dai perché? Ma dai su. Denunciato dai Massimiliano perché? Parente. Poi dai. Possiamo scherzare su tutto. Ma dai perché? Massimiliano Parente perché, denunciato. Perché dai. Ad Auschwitz ci sono stati 1 milione di morti. Ma che c'entra? E per noi. Aspetta, questa è una cosa. Ma non è che ha offeso i morti. Non ha offeso i morti. Ma chi porta la kippah è come se commettesse un genocidio. Cioè ha offeso. No, Parenzo con lo zuccotto ha detto. Non è che in generale la kippah, ha detto Parenzo con lo zuccotto, probabilmente voleva dire, non lo so, una bella querela. Ma una bella querela per quale reato? Per quale reato? Scusa, spiegami, il reato qual è? Ha detto che chi porta ma qual è il reato? Sì, vabbè, quello ho capito, no, a parte che ha detto Parenzo, ma comunque lasciamo perdere, non sono qua il difensore di Parente, ma qual è il coso? Mi pare che ti diverta. Ma no, assolutamente, ho detto che ha sbagliato, che non ma soprattutto morti, va bene. Ma figura se mi diverto. È una mancanza. Sì, è una mancanza assurda di rispetto di 6 milioni di morti quello che state dicendo. Tu difendendo sto dicendo nulla, io sto dicendo che è sbagliato portarlo in tribunale. No, sto dicendo che è sbagliato portarlo in tribunale, ma io non ho manco capito quello che voleva dire, per cui uno si offende. No, ma non ho capito. Hai notato anche tu la parola genocidio, mi pare. Certo, è un genocidio che Parenzo indossi la kippah, non ha detto che indossare in generale la kippah. Cosa vuol dire genocidio? Sì, ma ho capito, ma lascia perdere il significato della parola, il punto fondamentale è. Allora, di cosa dobbiamo discutere? No. Discutiamo del fatto che io ti sto annunciando adesso, non è una notizia clamorosa. No. Ma ho parlato con il presidente Pacifici poco fa, che mi ha confermato che procederemo insieme per vie legali nei confronti di questo signore. Vediamo cosa salta fuori. Volevo capire il reato. Se tu nel giorno della memoria. Ma qual è il reato? In un posto che è considerato un cimitero, dici che chi indossa la kippah commette un genocidio. Sì. Oltre a dire una cosa che è clamorosamente offensiva. Ma sì, ma voleva dire che il genocidio non è stato solo nei confronti degli ebrei, immagino volesse dire questo. È una stronzata, perfetto. Perché non si capiva soprattutto perché non si capiva quello che voleva dire Parente, questo è il punto, cioè, perché era contorto come pensiero. Cioè non era contorto, non è che tu, che sei una persona purtroppo intelligente, hai azzeccato immediatamente qual è il punto della polemica, che era la parola genocidio. Ma va bene, non la tua No, non la sua riflessione. Sì, ma ho capito, ma nelle religioni. Ma va bene, no, lui non crede in nulla come me, ateo, ma chi se ne frega? Ma questo va benissimo, questo chi è che ti offende? Però scusami, prova a metterti nei panni di chi o come me ha avuto una nonna in campo di concentramento, o di chi come Pacifici ha avuto il nonno che si chiamava Riccardo che ad Auschwitz morto. Tu dici quando uno ti dice che mettere lo zucchotto è come fare in un luogo che è un luogo sacro, perché quello è considerato un luogo sacro. Tu quando vai in chiesa sei no, ma ho capito perfettamente. Adesso non, non mi rifare la cosa che abbiamo già sentito nella tua spiegazione precedente. Ho capito allora, il problema è che se tu mi dici che indossare la kippah, che per me è una cosa sacra, ma non la kippah in sé, quel posto lì è sacro. Vabbè. Di fronte a un milione di morti, io ti querelo. Beh, benissimo. Fuori, grande professore. Oh. Titoli del TG3, dai. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Quirinale, giornata di consultazioni a Palazzo Chigi, il PD con Bersani, poi Berlusconi e Casini, Renzi, niente veti, possibile un nome fuori dal Nazareno. Con Renzi non è stato individuato un candidato, ma andiamo avanti, lo ha detto Berlusconi, non conviene a nessuno rompere accordo e patti, domani nuovo incontro. Dal Movimento 5 Stelle una rosa con 10 nomi, tra loro Bersani, Prodi e Cantone, domani il voto della rete, Lega e Fratelli d'Italia indicano Feltri. Ad Atene riunione del nuovo governo Tsipras, almeno di pensioni e stipendio minimo, alta le privatizzazioni, il ministro delle finanze, ci aspettiamo New Deal europeo. In Siria annunciata la liberazione del giornalista giapponese e del pilota giordano nelle mani dell'ISIS, ma non ci sono conferme, richiesto lo scambio con una terrorista. I tentacoli dell'andrangheta in Emilia-Romagna, più di 160 arresti, infiltrazioni negli appalti post-terremoto, le risate al telefono come per l'Aquila. Diventa un caso la visita di Obama e consorte in Arabia Saudita per la morte di Re Abdullah, la First Lady in abito blu e senza velo, oscurata dalla TV di Stato. Milano, Luciano. Luciani, buonasera. Dimmi. Volevo dire che io sono d'accordo sul fatto di Corona che deve restare in carcere, perché quella lì non è mala giustizia. La mala giustizia sono altre cose, ma la giustizia è quello che hanno liberato dopo quel che ha tirato un cazzotto alla rumena che l'ha ammazzata, che è fuori dal carcere dopo 4 anni. Ma la giustizia è quando prendono gente anche per reati stupidi, furti di appartamento, roba del genere, però ripetuti nel tempo, pluripregiudicati, scusa, che sta in carcere un anno e mezzo. Ma la giustizia è quello che fa un incidente stradale, guida ubriaco, drogato, ammazza qualche persona e gli danno 6 mesi con la condizionale. È questa mala giustizia. Quelli che fanno il raffronto con quello che perché ha preso 10 anni a ammazzare. No, quello è ridicolo, quello è ridicolo. Quello è ridicolo. Adesso mi devono raccontare la baggianata, mi devono ancora raccontare la baggianata del complotto giudiziario contro Corona, perché avrebbe, capito, toccato la famiglia Elkan, una puttanata inaudita. Ma questo non è solo cazzate. Allora, anche i giudici della Cassazione che oggi hanno deciso di cancellare lo sconto di pena, io non sono, come dire, non è che esulto, sono contento, lo sconto ma di pena a Corona, riportando per adesso la pena di Corona a 13 anni che sono coinvolti in questo complotto, cioè tutti i giudici che hanno deliberato sull'affare Corona, che sono, come dire, 20, 30, forse 40, allora sono tutti d'accordo contro Corona, ragazzi, ma non diciamo stronzate, dai, non esiste, sono tutte stronzate. Il problema è che lui ha fatto una serie di piccoli reati, piccoli o grandi che siano, che presi individualmente possono essere anche delle cazzate, ma se tu ne fai 20 sei un pregiudicato, sei un danno per la società. Ed è giusto che tu, poi la gente si dimentica che questo ha tentato di scappare, l'hanno preso a Lisbona, Cioè, sì, vabbè, poi ci sarebbe da discutere su questa fuga rocambolesca, ma insomma, la realtà. Ma formalmente è così, andare, certo, no? Cioè, con la 500, col satellitare, ma che fuga è? Cioè, arrivando fino a Lisbona, cioè, una cosa patetica, ridicola, però comunque di fuga sempre si è trattato. Però la fuga l'ha fatta. Sì, dai. Sì. Grazie, Stefano. Luciano, andiamo a Stefano. Stefano da Lodi. Stefano? Sì. Vai, ciao, dimmi. Luciani, sono Stefano da Lodi. No, volevo contestare il fatto che Parenzo, a parte che fa ridere che sia rimasto rinchiuso, non ha rispettato sicuramente perlomeno gli orari delle visite. Ma no, sembra ogni... di no, le visite sì, non c'entra niente, è una trasmissione televisiva. Cioè, comunque non ha rispettato che sei un poliziotto regole. Polacco, Stefano, non ho capito. No, ma è comunque fa ridere il fatto. Io spero che la Farnesina non abbia pagato nessun riscatto, altrimenti. Guardi, la Farnesina non ha pagato nessun riscatto. Beh, qualcuno ha pagato, nessuno ha pagato niente. Beh, i traduttori che sono arrivati saranno stati pagati. I traduttori sono dei volontari. Ma non c'è niente di male, è normale che sia accaduto questo. I traduttori, ma stai dicendo una cosa inesatta, perché è la prima cosa che ho chiesto quando sono arrivati. I traduttori sono dei volontari. Bene, ti chiedo la gentilezza. Bene, adesso così. Non lo posso fare perché ho il telefonino impegnato. Ti sì. Twitto il documento che ho recuperato del permesso per stare dentro il campo. Ma guarda che nessuno mette in dubbio il fatto che tu hai. Prego di ritwittarlo anche ma tu. Ma io non ritwitto un cazzo, se non quello che voglio. Cioè, non è quello il punto. Il punto fondamentale è uno. Ma certo che c'era il permesso. Ma Stefano. Come questo uomo della polizia polacca che ha telefonato. Ma l'ho già criticato io, non c'è bisogno di mettere in carico la 90. Questo signore della Stasi, della polizia polacca. Vabbè Stefano, allora ma figuriamoci se non aveva l'autorizzazione a stare là dentro, dai Stefano, allora, avrebbero detto subito i polacchi, invece non hanno detto, dai Stefano. Che fa ridere anche il fatto che lui voglia rappresentare con chi fa in testa il popolo ebraico, che tra l'altro la religione ebraica, dove lì non si è commesso niente contro la religione, lì si è perseguito un'etnia perché... Ma che c'entra questo col fatto che ha la kippa in testa, scusi? No, appunto, la kippa rappresenta un atto religioso, di rispetto religioso. Vabbè, ma quello sono affari suoi. Parenzo, per quanto lui professi l'ebraismo, non conosce nemmeno la sua religione. Ma perché di fatto ma che ne fa lei? Ma lo so benissimo, perché io vorrei fargli alcune domande sulla tradizione orale ebraica, sul Mishnah, sul Talmud, se le conosce. Ma questo c'entra? Ma qui non siamo a fare la corsa. Allora è inutile che vada a fare delle manifestazioni di tipo religioso quando lui non lo rappresenta, e anzi, tutti i rabbini italiani non lo ritengono un giornalista rappresentativo, e anzi. Ma che ne sa lei che ha fatto un sondaggio? Che ha fatto un sondaggio? Lo so perché sono venuto in possesso frequentando determinate. Di che cosa? Di prescrizione nei suoi confronti. Non era Martino il candidato di Berlusconi e di Alfano per le prime votazioni? Antonio Martino? Lo stesso Martino aveva annunciato a un certo punto: mi fa molto piacere, ringrazio Berlusconi e Forza Italia. Sentiamo Martino. Antonio Martino, in queste ore lei è l'unico candidato ufficiale per la corsa alla Quirinale, nonché bandiera dei moderati. Che effetto le fa? E mi fa molto piacere e sono grato a Silvio Berlusconi, ai colleghi di Forza Italia e non solo di Forza Italia. Beh, tutto cancellato, povero Martino. Cioè, aveva capito qualcosa in realtà quando ci ha risposto al telefono e ci ha detto è uno scherzo da prete, perché era veramente uno scherzo da prete. Berlusconi, dopo aver sbandierato urbi e torbi la candidatura di Martino, almeno nelle prime tre votazioni, come candidato di bandiera, tessera numero due di Forza Italia, se ne fotte totalmente e dice che nelle prime tre votazioni ha annunciato oggi davanti ai parlamentari riuniti, ai grandi elettori di Forza Italia riuniti, ha annunciato che da domani si voterà scheda bianca almeno per le prime tre votazioni. Voci dai 5 Stelle. Di Battista, il patto del Nazareno è un patto massonico. È in atto un patto politicamente criminale, massonico, il patto del Nazareno. Ogni giorno esce fuori una caratteristica e una peculiarità ulteriore. Patto criminale massonico. La cosa incredibile è che questa rosa dei 5 Stelle, formata da credo 8 persone, 8/10, non mi ricordo. E c'è anche, per esempio, 10, sì, Gargamella Prodice, quello che loro chiamavano Gargamella, quello che pigliavano per il culo, eccetera, eccetera. Lo mettono là dentro, cioè dire Bersani. Sentiamo ancora Di Battista. Per cui reputo che sia giusto, e non dico che lo voterò, però che sia giusto che all'interno della rosa ci possa essere anche il nome di Bersani, in quanto nonostante tutto politicamente e come Presidente del Consiglio non l'abbiamo voluto e non lo vorremmo mai, chissà che come ruolo di garanzia costituzionale non possa mantenere, chissà, un minimo la schiena dritta, un minimo la schiena dritta rispetto, ripeto, a un patto massonico pericolosissimo. Allora, Francesco da... No, eravamo ancora con Stefano da Lodi. Stefano, dai, concludiamo questa buffonata che dici sui rabbini, la chippa, no, Parenzo. Non è una buffonata, tu sei il solito somaro anche tu. Ascolta, sì, siamo tutti somari qua. No, ma va bene, io in qualche situazione tu ti dimostri ignorante e questa non è, è una delle tante. Ascolta, non ho capito, ma quale sarebbe l'ignoranza? Ha una motivazione di essere perché affonda. No, non me ne frega niente delle discussioni sulla religione ebraica. Non ho capito questa cosa di Parenzo. Perché uno, un giornalista, per fare un semplice scoop, per darsi visibilità, dove non è nemmeno plausibile nei confronti della confessione che va a manifestare lì, perché gli ebrei in Italia non lo vogliono come... Ma che ne sa lei che non lo vogliono gli ebrei in Italia? Non so, perché ne sono venuto in possesso. Di cosa è venuto in possesso? Che fanno parte della... Ma puoi fermare questa persona? Dell'intelligenza ebraica. Perché dovrei fermare il delirio? Lasciamo il delirio. Non è voluto, perché più non è voluto. Mille volte Gard Lerner ti dicono. Vabbè, che non è Stefano, arrivederci. Ma non è così cacofonico, nemmeno in videoconferenza come Parenzo. Va bene, ciao amico. Ma Fabio, cosa dovrei dire a questo qui? Ma nulla, ti ho interpellato? Cosa dovrei dire a questo qua? Ma che ne so? Cioè, non... Se fai parlare uno che dice che non sono... Io faccio parlare tutti, per cui primo, faccio parlare tutti. Mi ha offeso, devi darmi il numero di questo perché lo denuncio. Pure, ma che ti ha detto? Certo. Scusa, non ho capito. Che ha detto? Non hai, ma c'è qualcosa che secondo te offende? O no, no, ma che ha detto? Che ha detto? Che non sei apprezzato? Non secondo lui, non sei apprezzato dalla comunità? Che avrebbe dei documenti? No, che avrebbe dei documenti? Sì, avrebbe dei documenti. Vabbè, ma avrebbe dei, tu credi che abbia dei documenti che ti sputtanano, diciamo? Dei documenti? Assolutamente no. E allora, uno dica una cosa così, vabbè, ma molti il dubbio che... Vabbè, ma se vuoi, ti do il numero, vedere. Denuncialo, per carità. Grazie. Denuncialo pure, non c'è, esatto, problema. Fabio, grazie, da Cesena, vai, denuncia tutti. Perché fai. C'è l'ufficio dalla questura, Fabio da Cesena. Fabio. Fate un ufficio della questura a casa, no? Fabio da Cesena, vai. Tu, Gruciani, dimmi. Vai a fare in culo, Gruciani. Vabbè, grazie, perché Fabio, dimmi. Perché tu ieri sera hai chiuso la trasmissione e hai detto vai a fare in culo a tutti. Sì, ma, allora. Scusa, secondo te questa è una cosa giusta? Noi stiamo a sentire qua che tu ci mandi a fare in culo? Secondo te? No, ma era una... il mio mandare a fare in culo era una specie di augurio. L'augurio, si auguri questi. Di augurio gioioso, di augurio gioioso. Ma si auguri gioioso, si viene per te. Scusa, che cazzo di ragionamenti è? Scusa. Sì, no, ma... Ci manda a Parenzo a fare in culo, che dopo poi ti ci deve rimandare, sì, capito? Ecco, e no alla gente che ti sta a sentire. No, ma era un atto d'amore, era un gesto d'amore. Perché è pesante qua la trasmissione, tutte queste cazze di pubblicità. Era un gesto d'amore, ma che c'entra adesso la pubblicità, scusami? Sì, vabbè, io per dirti, sei pesante, no, tutta la trasmissione, sì, ti stiamo a sentire piacevolmente, le cazzate, i cazzi. Ma guarda che era un gesto d'amore, era un gesto d'amore. Ma non mi sembra a me che era un gesto d'amore. Beh, te lo dico io adesso, interpretalo così, come un grandissimo gesto d'amore. Se lo dici tu. Era una cosa bravo, liberatoria, bravo. Una cosa di grande affetto. Devi anche fare in culo tutti quanti. Bravo, ma se tu mi mandi a fare in culo io sono contento. Ma io ti ho mandato perché tu ieri sera ci hai mandato a me e tutti quelli. Vabbè, che mandiamoci reciprocamente a fanculo, qual è il problema? No, Fabio, ma non mi piace. Vabbè, allora io te lo ridico, vai a fare in culo. Allora vai a fare in culo pure tu, porco due, no? Che cazzo di ragionamenti fai? Ma sei scemo? Ti abbraccio, amico mio. Renato da Roma, Renato. Renato, vai. Pronto? Sì. Divertentissimo il precedente. Vai, dimmi, vai, forza. Senta una cosa, c'è Gianrusso per caso? No, non c'è più, dimmi. Non c'è più, va bene. Volevo dire che io premetto che sono contento che ci sia il Movimento 5 Stelle nonostante tutto. Dunque? Però ho visto prima, mentre parlavate, che lei forse non ha ben chiaro il concetto che hanno loro di, per esempio, democrazia diretta. No, per me sono tutte cazzate, per cui... sono tutte cazzate, ma se leggete il blog è tutt'altro che una cazzata. Per me è una stupidità, per me, dal loro punto di vista, va benissimo, perché io le considero tutte quante delle cose ridicole. Io sono d'accordo con lei, io sto dicendo proprio questo, che loro non si rendono conto, ha ragione... quello che si è allontanato oggi dal Movimento 5 Stelle, che loro gridano al tradimento senza interrogarsi sui loro problemi. Cioè, sono tutte cazzate, poi ovviamente uno è legittimo che loro lo facciano, certo, non è che dico, uno può scegliere come vuole la propria linea politica, i propri candidati al Quirinale. A me appare una follia che in una situazione del genere, come la corsa al Quirinale, diciamo, uno faccia scegliere i cittadini sul web, cioè quelli iscritti alla piattaforma del web, tutta una cosa complicata. A me sembra molto più semplice che i capi di politici discutano con i parlamentari e poi decidono una linea politica, siccome è una partita a scacchi questa qua, cioè siccome l'elezione non è l'elezione diretta, poi tra l'altro sono pure contro l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, cioè 5 Stelle sono a favore della consultazione del web ma contro l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il che è chiaramente una contraddizione, cioè vogliono che siano interpellati ma solo quelli loro, vabbè, d'accordo. Io sono totalmente d'accordo su questo, beh, allora? Questo motivo. No, dicevo, no, quindi siamo d'accordo su questo punto. Dicevo che sul Presidente della Repubblica, sì, al limite, anche se sarebbe incostituzionale per le ragioni che ha detto lei, sì, si può anche capire il discorso che i cittadini possano essere chiamati a scegliere una personalità, no? Tra virgolette. Sì. Ma questi fanno la democrazia diretta sul sistema elettorale. Hanno fatto le elezioni le elezioni online, per scegliere il sistema elettorale. Io sono un avvocato amministrativo. No, no, ma certo, anche questo. Anche no, questo. Mi ascolti un attimo, ho 20 anni di esperienza allora? Nel settore, faccio amministrativo. Vabbè, dunque? 20 anni. Sì? Io per poter valutare una scelta del genere devo farmi un mazzo così sopra. Questi addirittura danno la possibilità a chiunque di votare una cosa così delicata, un'assurdità assoluta. Sono d'accordo, Renato, grazie. Giovanni Livorno, vai Giovanni, dimmi. Buonasera, ciao Cruciani. Dai, dai. Manda, ma si è mica posto il problema della detenzione di Parenzo? Sarà mica che l'hanno trovati tutti e tre con la chippa? È passato qualcuno che ha avuto voglia di chiudere i cancelli una volta per tutte? Sì, cioè, la battuta ci sta tutta, chiaramente l'ho fatta anche stamattina, io l'ho battuta su Twitter, ho detto la notizia è che hanno riaperto Auschwitz, diciamo. Esatto. Potevo anche aggiungere, come, scusa? La battuta, quindi, di pessimo gusto. Beh, la battuta è pessimo gusto, una battuta, dai, sì, ci sta. Non ti riferisco a quello che mi hanno detto alcuni amici che hanno avuto parenti, io deportati, però. Ma che c'entra, però, amico mio? Ma se, come dire, l'ironia ebraica, come vedi, è risaputa, è super conosciuta. È un po' diverso. Ma che vuol dire un po' diverso? È che è autorizzata solo qualcuno, è autorizzato e altri no? Non ho capito. Ti riferisco. Ma non me ne frega, tu sai benissimo di quanto me ne può fregare a me di quello che dei giudizi di alcune persone sulle battute che faccio. Io stesso ci sono rimasto molto male, però va bene. Non c'è nessun rispetto, ma va bene. Nessun rispetto. È una battuta. È una battuta. Una battuta. Lì ci sono stati ma è pieno di battute sugli ebrei da quando è nato il mondo, e anche tu le fai ogni tanto. Ce le fai non anche tu. Tipo. Ma che vuol non dire? Di ma che tipo è? Spiegami, che tipo di battuta è? Non di questo tipo, ma non importa. Ma che tipo di battuta è? Posso dire che lì dentro ogni ebreo no, che io ma io lo so, lo so. E allora che vuol dire? Che vuol dire questo qua? È successo un fatto divertente, anche se momentaneamente per poche ore, diciamo, di tensione. Ma io non mi sono lamentato per il fatto che... No, ma è normale che scappi la battuta. Tre ebrei rinchiusi ad Auschwitz. Beh, è normale che scappi Non può scappare la battuta. Non può scappare. Dipende quale battuta. Ci sono battute. Ma è evidente che. Ma le battute hanno a che fare. Io ne ho viste molte oggi su Twitter. Non mi sembra di essere mai offeso con nessuno. C'è qualcuno che addirittura ha fatto un fotomontaggio molto divertente. Sì. Di me vestito da Massimo Boldi e Pacifici vestito da Renato Pozzetto. Sì. No? Sì. Col titolo di un film che non mi ricordo come si chiama, ma quello era molto divertente. Era un film di Luca Telese. Noi due. Cioè, le battute sulla Shoah che gli ebrei non si possono fare. Dipende quali. Cioè, abbiamo la massima autorità qui, cioè il mullah Parenzo, che decide che io faccio una battuta su Auschwitz. Era di pessimo gusto, benissimo, qualcuno si è offeso. Come me, io per primo, ma questo interessa poco e non importa. Io per primo, ad esempio, però va bene, questo ci può stare, benissimo. Ma anche altre persone non l'hanno vissuta bene. Non l'hanno vissuta bene, che cosa vuol dire? Che vuol dire non l'hanno vissuta bene? Profondamente offese. Se qualcuno che si è offeso perché io ho fatto una battuta alla notizia che hanno riaperto Auschwitz. Esatto. Cioè, perché diciamo il combinato disposto di tre ebrei rinchiusi dentro Auschwitz per sei ore dalla polizia polacca, che è una cosa che fa ridere, è una battuta sull'olocausto, su Auschwitz che riapre, esatto, che viene naturale come battuta. Perché ci sono alcune cose che ancora muovono. Bene, benissimo. Cancelliamo, che ne so, Zoan, cancelliamo tutto questo. Parenzo ha deciso che alcune battute non si possono fare. No, musica, musica, musica. Ti ho dato Gesù Cristo. Cosa pazzesca, dai. Loredana da Milano, dai Loredana, vai. Buonasera, sono malata io questa volta. Che è successo, Loredana? Raffreddore, tosse. E allora? Dimmi. Allora, a parte per Parenzo posso dire che è una scena alla Peter Sellers, Pantera Rosa, fantastica. Quello che gli è successo. Alzi un po' la voce, leggermente però, per carità. Dunque, Parenzo mi fa pensare a Peter Sellers. Sì, beh, sì, un po' sì. No, ma attenzione, non si può dire, non si allontani troppo dalla, dalla cosa, sennò interviene il mullacqua. Mi fermo qui. Allora, interviene il mullà con l'approvazione di tutti i capi rabbini possibili immaginabili a bastonare chi non fa battute consone al genere umano, al politicamente corretto, ai signori. Beh, bisogna capirlo, si sente ferito. Non c'è no, ma per carità, uno si può per carità, non mi pare non mi pare di aver detto che bisogna bruciare gli ebrei in piazza. Né mi pare, anzi, al contrario, come lui sa benissimo, sono in Italia uno dei pochi una delle poche persone che si occupano di comunicazione, che ha sempre difeso a spada tratta. Una battuta idiota, no, è una battuta normale. Tu la consideri idiota perché sei direttamente coinvolto, ma è una battuta normalissima. Beh, vabbè, pazienza. Pazienza, non posso piacere a tutti. Non posso piacere a tutti. Certo, sono stato disgustoso. Benissimo, certo, sì. Va bene, certo. Certo. Va bene così, ma va bene, non lo sappiamo. Sì, certo, non c'è dubbio. Che alle volte, pur di provocare, si fa una battuta su una cosa che tocca la sensibilità di Perché l'ironia e le battute si fanno proprio su quelle cose lì, su quelle cose che in cui si tocca la sensibilità. Dipende. No, ma infatti la satira, l'ironia è a compartimenti stagni. Ci sono i mullah che decidono quello che si può fare e cose pazzesche, dai. E dove sono i mullah? Tu sei un mullah in questo caso, un mullah. Loredana da Milano, un mullah. Dai, la tua scomunica. Hai fatto una battuta disgustosa, la gente si è sentita offesa. Innanzitutto la gente me lo deve dire in faccia, si è sentita offesa no, tu infatti lo stai dicendo, e non per interposta persona. Te lo dirà. Benissimo, ottimo, stupendo. Stupendo. Ho fatto una battuta, una semplice battuta che voglio ripetere per chi ci sta ascoltando, per un caso molto divertente che secondo me è divertente pur nella drammaticità di alcuni momenti, non c'è dubbio. Questo infatti l'abbiamo detto tutti. Di tre persone di religione ebraica che io difendo a spada tratta, uno dei pochi in Italia, sempre contro attacchi, contro razzismi vari eccetera. Ho fatto una battuta perché me lo posso permettere, secondo me lo posso permettere perché non sono mai stato accusato. Certo che me lo dico da solo, sì. La patente, sì, assolutamente, sì, e lo sai benissimo che è così. Puoi dare la patente da solo. No, infatti mi do la patente, me lo posso permettere di fare una battuta che è molto semplice, con tre ebrei rinchiusi dentro Auschwitz. Ho detto la notizia che hanno riaperto Auschwitz, non mi sembra una battuta tragica, è anche una battuta semplice, stupida, perché non sono un battutista e non faccio il comico. C'è gente che si è offesa, oddio mio, si è offesa, hai toccato Auschwitz, hai toccato il genocidio, non si possono fare battute, oddio, ma hanno toccato tutto. Ma dai, su Loredana, dai, su. Vai. Chi è? Amici che è? Sì. Dai, incredibile, dai. Loredana, dai. Sono una sensitiva, però... Una sensitiva? Questa è interessante. Uso carte, fondi di caffè o pendolini. Quando sono rilassata mi appaiono delle cose tipo medium, ma molto più in piccolo. Vabbè, in questi giorni, dove si parla tanto del nostro presidente prossimo, però devo dire che non seguo tanto la politica in questo periodo, perché mi fa pensare a una partita di rugby, tutti addosso alla palla che sta sotto, vabbè. E, mi è apparso rilassata, in campo nero, scritta come di vernice bianca con un bel pennellone, il nome di, che non conosco tanto bene, Nettis, Settis, può essere? voi che lo conoscete questa gente? Settis, sì, il professor Settis. Salvo, cioè, Salvatore. Lei che è una sensitiva, le è apparso il nome del nuovo presidente? Ma ero rilassata, mi è comparsa questa scritta di bianco su nero, Settis. Ora, che sarà o non sarà, non lo so. Ma scusi, come le è apparsa questa scritta, né, Settis? Cioè, scusi, signora sensitiva, come le è apparsa? Allora, in campo nero. Campo nero, sì. Campo nero, questa scritta in stampatello impreciso. Sì. Ho visto questo nome. Che qual era esattamente? Settis? Settis Salvatore. Salvatore Settis. Sì, vabbè signora, adesso con tutti i nomi che ci stanno in Italia, lei le pare è mai possibile che le appare un nome Settis Salvatore? Ma davvero sta dicendo questa cosa qui? Io racconto il fatto, come e perché succeda non so, non mi interessa saperlo. Ad ogni modo potrebbe anche non essere lui, ma è successo questo potrebbe essere la persona giusta per l'interesse del popolo e della nazione. Vabbè, la sensitiva Loredana. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, dopo la pubblicità, ci dirà la sua sulla nuova coppia della politica italiana. Nuova coppia Matteo Salvini e Elisa Isoardi, la professoressa esimia dottoressa Efe Ball. Ciao Efe. Buonasera, ciao. Ma grande leghista, leghista d'adozione, sì. Leghista d'adozione. Sì, sì, sì. Ci dirà la sua su questa nuova unione, questa nuova coppia favolosa, fantastica, strepitosa di cui tutti parlano della politica italiana. La sentenza di Efe Ball. Cara Efe, aspetta altri due minuti, ma che c'è, un cliente, no? No, un secondo, che mi somiglia, Isoardi mi somiglia, alta, bella, magra, come me. Sapete che ha detto una cosa che non è poi così lontana dalla realtà, cioè la Isoardi assomiglia un po' a Efe Ball, sì, c'ha un po' di mascolinità effettivamente la signora Isoardi, è un po' mascolina come Efe, che d'altra parte maschio era, insomma, no? Ma dai, basta, Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda. Spettacolare. Comunque mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria. Una spregevole. Siamo qui da Zanzara, io a Milano, David Parenzo da casa sua con in braccio il bebè, Efe Ball in collegamento con noi, la trans della Lega. Ma non cazzo. Come? No, tu da Milano, Parenzo con il bebè al braccio, io in mano un cazzo. Vabbè sì, quello meglio che non facciamo le battute. No, le battute oggi prima. No, per carità, oggi le battute sono cancellate. Ma chi ha detto questo? Le battute sono cancellate, cancelliamo le battute. Ciao Parenzo, come si chiama adesso tuo bambino? Ciao cara, no, voglio capire. Si chiama Nathan, ti ha chiesto come si chiama il bambino. Sì, no, vabbè, adesso gliel'avrei detto. Ma dico, perché devi usare delle iperbole volute? Perché alla radio, ogni tanto, si usano. No, sarà anche nel mio caso, ma siccome faccio la radio così, o ti piace oppure non ti piace, e ci sono diverse strade. Non è che uno. Sì, certo, come non si può. Sì, certo che si può. No, guarda, il mullà, non copiare le cose che ho detto. Non copiare le cose che ho detto io. E io ti ho detto semplicemente con grande tranquillità che ho ritenuto e ritenuto. Bene, ottimo. Roba lì. Benissimo. Sono fatto in questo caso, guarda, in altre volte tutti, no, ti conosciamo tutti, lo dici di qualcun altro, parla per te stesso. Ti conosciamo chi che parli al plurale? Ma parli al plurale chi? Sai, tutti noi. Vabbè, fammi parlare con Efe, dai. Ma tutti noi, mio nonno, tutti noi, mio nonno. Sì, sì, mio nonno in carriola. Sì, certo. Chi ascolta lo sa. Sì, sì, ma infatti lo sanno tutti, non ti preoccupare. Sì, sì, certo. Tutti noi lo sappiamo. Guarda, in questo caso, tra l'altro, mi pare veramente, in altri casi posso essere sgradevole, posso essere volgare, poi sei così. Anche divertito molto, questa qua non ti ha divertito, pazienza, me ne farò una ragione. me ne farò una ragione. Particolarmente violente le ho messe bene, da parte. Bravo. Le ho messe da così parte. Facciamo pure una querela. Così facciamo un'altra querela. Mostrano un po' la pancia di questo cioè, paese quando ci sono alcune va bene. Cose. No? Adesso parliamo di cose più serie e andiamo a sentire dalla viva voce di Efe Ball. Cara Efe, come hai preso quando l'hai saputo di questo fidanzamento? Innanzitutto lo sapevi già o no? Tu che frequenti il mondo della Lega. No, io sinceramente non lo sapevo. Avrei immaginato che prima o poi Salvini avrebbe trovato una ragazza, una donna dal mondo di televisione, un po' più appariscente, un po' più così alla moda, si può definire, perché ho conosciuto per un attimo, per 10-15 minuti, la Giulia, che è la compagna, era una ragazza semplicissima, bellissima, dolcissima, però comunque avrei immaginato un uomo che passa 3-4 giorni a Roma, 2-3 giorni a Strasburgo, tanto meno che io volevo andare in aereo un giorno, nello stesso aereo con lui a Strasburgo, per poter magari fare qualcosa nel viaggio, in bagno dell'aereo, piuttosto in aeroporto. Scusa, perché non ho capito, perché tu hai... tra noi due. Ma perché tu hai provato più volte ma con io Salvi... sono innamorata pazza di lui, è ovviamente un innamoramento solo fatto da me, platonica, però in ogni modo mi piace moltissimo Salvini. Comunque sia, questo Isoardi, sì, guardate bene, soprattutto 4-5 anni fa, che era un po' più grassa, un po' più cicciottella, un po' più rotonda, sì, somiglia tantissimo a me, anche lei è altissima, in effetti hanno chiesto la sua altezza, non è un problema, soprattutto magari nel letto, no? Adesso parliamo chiaramente. Lei ha risposto no, e Salvini è anche abbastanza alto, anzi quanto me. Beh, quindi non c'è troppo differenza tra noi due, vabbè. A letto sinceramente non ci sarà nessun vabbè, ma lasciamo perdere il letto, immagino. Adesso non lo sappiamo. Secondo te com'è? Secondo te com'è? Vanno a letto, no? Beh, sì, immagino di sì, che ne so. Allora, sicuramente. Salvini è un uomo bellissimo, ha trovato una ragazza bellissima e che somiglia a me, che ha una tu dici cosa, prima anzi, o poi non ha una cosa che ce l'ho io, e vabbè, amen. Beh, questo è sicuro. Salvini è sano, Salvini pensa anche di sesto, non soltanto pensa di andare avanti soltanto con la politica, ma come tutti gli uomini che tu dici il fatto che si è scelto una persona pensa anche al sesso. Pensa anche di trombare, allora vuol dire che un uomo di sesso anche, ogni uomo di sesso e di fantasia alle fine comunque prima o poi provano le cose che magari normalmente non hanno coraggio di provare ogni giorno, cioè di andare con la transessuale, un travestito. Tu dici prima o poi Salvini prima proverà. Prima o poi lo farò, tanto meno che anche lui lo sa, sicuramente, perché ho parlato con dei leghisti quando li ho visto, così ho detto guarda, io insomma amo in un modo follamente Salvini. E loro che hanno detto? Ma loro fanno un sorriso, dicono non dire mai, ma in effetti tu avevi mai immaginato, avresti mai detto che Isoardi o una donna del spettacolo, del televisione, sarebbe finito sul giornale con Salvini? Avremmo mai detto... Per cui mai dire mai a una coppia, prima o poi te lo farai. Devo essere sincera, dimmi, vengono dimmi. Uomini molto più belli, molto più potenti, molto più... Beh, potenti non lo puoi sapere. Fisicamente e anche il resto molto più insomma macio di Salvini, e lo fanno questa esperienza. Quindi Salvini come uomo, lasciamo stare che è un politico, un uomo molto amato soprattutto in questi giorni con la Lega che va avanti molto forte, però se pensiamo come uomo vengono uomini ancora più macio, allora, ancora più invece... bello di lui, e quindi prima o poi anche lui proverà, basta avere un attimo di... Ma secondo te c'è un uomo che non tradisce? Oppure alla fine... No, non c'è. Impossibile, non c'è. Impossibile. Vabbè, ma tu sei abituata, troppo bene, però... Nel vostro DNA, nel vostro genetico, c'è proprio ogni uomo. Allora, tutti, cioè, se tutti no, però scusami Efe, se tutti gli uomini fossero fedeli, tu non avresti più lavoro, innanzitutto saresti finita, morta. No, guarda, io avevo un fidanzato anni fa, lui... Sì. Un giorno la moglie ci ha scoperto, si chiamava Umberto e la moglie si chiamava... Meglio di no. Comunque sia, lui ha detto, amore mio, proprio davanti di me a lei, amore mio, io non ti ho tradito con una donna, vedi? Ti ho tradito con un uomo, lui, cioè lei, è un uomo, quindi perdonami. Alla fine comunque uomini... Cioè tu dici, se vanno con i transessuali si sentono un po' più... si sentono di non tradire, si sentono... questa scusa per dire amore non ti ho tradito mai, almeno non con una donna, ti ho tradito con un uomo che va bene, che è con me, io accetto questa realtà e va bene così, capito? Parenzo, com'è la storia? Pronto? Parenzo? Boh. Parenzo? Sì. Sì, non hai capito com'è la storia, no? ho capito. Ma, insomma, tu non è mai andato con la trans, scusami. Io ma ho capito. Un bambino. No, stavo per dirti, come dice Chiara, ma anche la tua moglie, quando eri incinta per fare quel bambino lì, all'ottavo, già, nonno mese, cosa facevi, scusa? No, ma quello facevo, mi divertivo da morire, ma non mi sembra che sia divertente. Ti divertivi da morire come, Parenzo? Una donna incinta di 8-9 mesi, come la trombare? No, non potevi trombare, cosa facevi? Mi sembra un ragionamento però interessante quello della signora Evelyn. Io questa domanda chiederei a noi interessa, uomini, a noi interessa. Questa domanda chiederei tutti gli uomini che adesso ci ascoltano. No, ma io voi che dite che non farei mai, vostra moglie quando sono incinta 8-9 mesi, no? Lei, con la pancia, cosa fate? Lei prima mi ha chiesto un'altra cosa. Io non sono mai andato con un trans, ad esempio, questo mai. E penso che mai lo farò. Però non è che ti dico chi ci mai dire, ma poi lei diglielo. Seconda domanda di Efebal che ti aveva fatto. Ma non ti stufa mai di mangiare ogni giorno la stessa cosa, la stessa patata. Non ti stufi mai di mangiare ogni giorno stessa cosa, dice signora Efebal. Diciamo che io sempre io la patata, sono... non ti manca mai un würstel. Non vuoi mai capire cosa vuol dire essere scopato? Non so. Beh, insomma, qui siamo veramente al top. Potresti fare sentire a tuo figlio queste cose. Questa esperienza per capire cosa vorrebbe dire essere lì sotto che sopra. Sì, quello abbiamo capito. Capito? Non so. Veda cara, da questa augusta conversazione che lei ha introdotto proprio all'orario di cena, che lei ha proprio introdotto, io le dico che è molto chiaro una cosa, che i miei gusti sono quelli di un eterosessuale convinto, non sono come i suoi, ma dopodiché siamo amici, non siamo mai visti. No, però sta dicendo un'altra cosa, Febale. A un certo punto è una domanda molto precisa quella che ti ha fatto, non ti è mai venuta voglia, come dire, di cambiare minestra, di cambiare menu? Ti ho detto, per ora io amo la pasta al tartufo, poi magari domani mangerò la pasta in bianco, non lo so. Sì, diciamo che il paragone fatto era tra la patata e il Wurstel, sì, diciamo. L'ho capito, è che non voglio fare questi paragoni venendo da un paese che per otto ore mi ha diciamo tenuto in ostaggio in un campo e lì si mangiavano patate e Wurstel, quindi ho capito il paragone, preferisco la pasta. Vabbè, adesso la Polonia non è che è diventata proprio il centro del male. Wurstel, tutti i tipi di Wurstel, i Wurstel più grandi, più gustosi sono per me. Signora Efebal, dunque, secondo lei questa relazione è una relazione, quella tra Salvini e Isoardi, destinata a non durare, diciamo la verità? Ma ovvio, 6 mesi, 7, tromberanno e nel frattempo... Ma perché non dà una chance all'amore anche lei? No, adesso divento sentimentale. No, per favore, abbi pazienza, no, niente amore. Ma perché conviene a te, la tua professione, cara Efa? Vado con tantissime social network, con televisione, con le riviste, con trans, come me in giro, non c'è più l'amore. Si trombano, si stanno bene. Ma ho capito, ma non è possibile. Dopo finisce, veramente. È soltanto un inganno pensare che durerà tanto. Ma questo conviene a te, amore. Conviene a te, alla tua professione, ti conviene, per questo che lo dici. Ma posso, scusa, ma chiederle una cosa, niente, professore? Ecco, c'è una domanda di Parenzo, fermo. Scusi, se posso. Salvini ce l'ha già due figlie. Dai, sentiamo Parenzo. Signora, mi scusi. Io credo che, essendo lei una militante della Lega, alla fine vi pare, lei ci sta dicendo molto chiaramente. Anche la tessera, anche la tessera. Ovvio. Anche la tessera. Sì, ovvio. La tessera della Lega, certo. Come va la canzone? Gli servi di Roma fuori, viva il Wurstel duro senza ripensamenti. Questo qui dovrebbe essere la canzone nuova della Lega. Però voglio dirle questo, cara. Mi sembra di capire, cara la mia signora... Efebal, hai il pisellino come te, No, ecco, forse un po' più grande. No, il pisellino piccolo come quello di tuo figlio. Sì, abbiamo visto. Aspetta un attimo che glielo dico. Diglielo. Il telefono con la signora Efebal. Che è una signora, è pure di amore, è una signora. Però c'è anche un altro arnese, diciamo, sai, però è una signora. Va bene. È una signora, un arnese che è esattamente quasi come quello di tuo figlio, voglio ribadire. Che quando crescerà vuole venire con me anche lui a letto. Beh, questo è buono, questo è veramente buono. Questo è buono. Beh, io ho capito così, sinceramente. Però, il figlio di Parenzo quando cresce, cliente di Efebal, è questo che vogliamo. Futurista. figlio Parenzo, fammi conoscere tuo figlio, così quando avrà 18 anni conoscerà me. Già da adesso faccio un investimento futuristico, oltre che bond, BTP, tutte queste cose qua. Io investo al figlio di Parenzo, che sarà un ragazzo bellissimo, questo moro, non credo, sì, questo vogliamo. Vabbè, la domanda che volevi fare qual è, qua, signor Ball? La domanda è questa, secondo me è molto diretta la signora Ball. Sì, signora Ball. Meglio di avere la signora Ball, fuori di Ball. Fuori di Ball. Grazie. Abbiamo preso anche la signora Ball. Ci piaceva dai, questa domanda, invece di prendere. Però scusi, Bossi. Sì, scusi, esatto, un attimo, ma come ciao Umberto. Intanto vai a fare il culo, intanto così. Sì, vabbè, perché vai a fare il culo? Per chiarire subito. Ma scusa, che fai il portavoce, allora, di Parenzo? È venuto per chiarire su Parenzo, è stato bravo, che è andato lì in Polonia, lì vicino a Berlino, in Germania. Vabbè, in Germania. Ma che c'entra? È andato lì perché c'era Auschwitz, eccetera. Comunque, chi è che c'era lì? Non c'era, non l'ho visto. C'era il giorno della memoria, Auschwitz. Io non mi ricordo un cazzo. Ecco appunto. Io so solo che avete fatto fuori Renzo, quella è la memoria. Ma ecco, capito che vuol dire. Sì, quella è l'unica, cioè, conta solo quello per Bossi. Vabbè, sì, lo avete fatto fuori. Voglio dire che è nato un nuovo movimento, Fora F. Fora de Balle, nato da lì. Ma come Fora de Balle? Cioè... Fora, l'abbiamo fatto noi, abbiamo creato noi questo signore. Fora de Balle, Fora de Balle. Una signora che avesse tutto. Fora di Balle. Ho capito. La domanda che voglio fare alla signora Balle, però, la domanda che voglio fare alla signora Balle è: ma lei vorrebbe essere al posto della Smart? Questo tutto. La questione di fondo è questa qua, possiamo girarci intorno, possiamo discutere della patata, giusto, tutto quello che volete. Però lei è un po' ingelosa della signora Isoardi. Esatto. È gelosa pazza della Isoardi, vorrebbe essere al posto della Isoardi, diciamocela tutta. Ma non se metto subito il coso, io non voglio avere un rapporto con Salvini, io voglio soltanto fare 2-3 trombate e basta. E daglielo, Salvini, con tutto il rispetto, non sono gelosa di Isoardi, che potete fare tutto quello che volete, visto che tutti i miei clienti, tutti quelli che ci vado a letto ce l'hanno già, una compagna, una moglie e tutto. Io voglio soltanto fare 2-3 trombate con te e basta, però 2-3 trombate fatte bene, fatte intense, bene, sì, proprio bam bam bam. Vabbè, adesso lo spiego, entriamo così vorrei e basta. Io sinceramente non voglio avere un rapporto, né soltanto non mi voglio, non mi voglio uomo, certo, non c'è, sono libera, io voglio ogni giorno assaggiare uomini nuovi. Punto. Capito, ma scusa, ma quante persone ti sei fatta nella Lega da quando sei entrata nel giro? Diciamoci la verità, diciamola tutta, no, la verità, cara, no, Eva. Con tutto il rispetto, li conosco tanti, ma non lo so. Dai, dimmi la verità, quanti te ne sei fatti? Parecchi. No. Lega Nord, no. Ma no, come no? Sei diventata la trans della Lega, Italia. Dai. Più di Forza Italia che della Lega Nord ti sei fatta. C'è più Forza Italia, c'è più di Partito Democratico, PD, che Forza Italia che da Lega Nord. Ciao, cara, a presto, ciao Eva, ciao, caro, ciao. Ma siete una bella coppia comica là, Hey, oh, let's go. Amici miei, siamo al flop. Let's go. Alcuni commenti raccolti online sulla... Sì, prego. Alcuni commenti raccolti online sulla vicenda Parenzo Pacifici Perugia. Cioè, senti Pennacchi cosa ha detto. Senti. Che devo commentare? Il luogo è talmente tristemente, drammaticamente così evocativo che di quella tragedia che c'è stata, che questa storia di Parenzo è una cazzata, insomma, vabbè, tutto, che devo dire? Fosse rimasto chiuso a Re Bibbia o a Regina Celi, ero più contento, come si dice, cioè, sì, mi sarei fatto pure una risata. Anzi, io ce l'avrei tenuto 20 anni dentro, non fosse altro perché stava Matrix con Terese, però io quindi gli avrei dati 50, perché non è persona che ti piace. Non mi chiedete commenti, andate per affanculo e finisce la questione, insomma. Pennacchi, abbiamo capito da Pennacchi. No, abbiamo Stupendo. Capito che ce l'ha con Telese, non si capisce perché. Cioè, ma sì, da tempo, certo, perché. Ma come mai? No, ma senti Vattimo invece, cosa ha detto Vattimo, il professor Vattimo. È pure una cosa pesante, ha detto, senti. Finalmente qualche buona attività della polizia tedesca non dirò che ha preso, ha avuto quel che si meritava. No, per carità, fate voi. C'è finalmente una buona attività della polizia tedesca. Ma intanto è un ignorante. Sì, perché non è la polizia tedesca. È un professore universitario, professor ignorante, Lanzi, no? Anche ignorante, sì, anche ignorante. Beh, mi sembra che si possa dire uno che pensa che Auschwitz sia in Germania. Beh, sì, era in Germania quando la Polonia apparteneva. Sì, alla Germania. Ma infatti lui voleva dire una buona attività finalmente della polizia tedesca rispetto a quella nazista. Cioè, si congratulava, no, per era la polizia polacca. Sì, quella. Lo so, sì, lo sappiamo. Sì, certo. Quindi lui ha sbagliato. Possiamo dire che ha sbagliato. Beh, e come no? E come no? Teorico del pensiero debole. Debolissimo. Sì, molto debole, molto debole. Debolissimo. Allora, andiamo a Parma, Giuseppe, vai. Mi stanno scrivendo in questo momento che la questione si sta ingigantendo, se vuoi. Cioè, in che senso? Spiegami. Sì, però sintetico, no. Sintetico. Sì, no. Beh, c'è stata questa dichiarazione del governo polacco che tu hai ricordato prima. Sì, sì. E c'è il consolato nostro, insomma, che sì, a Varsavia, che si sta occupando, cercando di capire la versione. Io quello ho capito. Momento, dunque, qual è la novità? Qual è? La novità è che c'è questo, come dire, questo confronto tra la nostra diplomazia e quella polacca. Vabbè, scontro, è chiusa. Lo scontro. Anche perché qualora titanico loro tra Italia e Polonia, non credo che ci sarà la quarta guerra mondiale. No, questo dai, non su, credo. Dai, dai. Però io oggi non mi fiderei oggi, te lo dico seriamente, a tornare in Polonia, perché qualora tornassi là e la polizia, anzi un magistrato, decidesse di aprire un fascicolo di inchiesta contro di noi, beh, io rischierei di essere processato in Polonia. Vabbè, dai, ragazzi, non esageriamo. Tanto che ci vai a fare, no, in Polonia? No, ti sto dicendo come, ma no, infatti non ci vado mai. Allora, ma no, quello siamo d'accordo. Dai, uno, ma no, a me ma sono rimasti un po' nazisti, secondo te, i polacchi? Sono rimasti un po' nazisti o no? No, quello assolutamente. Sono rimasti, no, di più, tipo, se sono rimasti comunisti invece, non nazisti. Sono rimasti comunisti. Cioè, Parenzo, due punti, i polacchi sono rimasti comunisti. Se vuoi ti racconto anche di più. Perché quando siamo andati nel commissariato con questi simpaticissimi poliziotti che ti guardavano, tu gli domandavi una cosa e loro subito mi hanno detto: si metta seduto, in polacco. Beh, ma ottimo, ma non comunisti subito, seri, direi, seri. No, ma sai quando c'era la vecchia burocrazia del regime? Ma no, certo, ma è gente seria, mica come sono formati così. Tant'è che anche le altre, alcune persone che erano lì un po' estranee alla vicenda, a un certo punto mi hanno detto sì, effettivamente noi risentiamo un po' della burocrazia, dell'apparato. Vabbè, del si sente poco, Davide, per favore, avvicinati di più quando parli, dai. Allora, Giuseppe da Parma, dai, sono rimasti un po' comunisti. Giuseppe, vai. Infatti, vabbè, dai, hai rotto il cazzo. Non hai fiducia della giustizia polacca, dei tuoi amici comunisti, dai. Abbi fiducia della giustizia polacca e vatti fare un bel giretto in Polonia la prossima volta. Senti, ma volevo chiedere a Parenzo, che temperatura c'era lì esattamente? Meno 8, diceva, no? Guarda, c'era alle 11 di mattina c'era meno 3. Ieri sera siamo arrivati, credo, anche a meno 6. Sì. Meno 7. E quindi non è che avevate paura per caso che, dato il freddo, così riaccendessero le caldaie, dico, no, eh? Cioè i forni, vuoi dire tu, Giuseppe? No, no, le caldaie adesso, i forni non le... Io parlo con il massimo rispetto per tutte le autorità militari, politiche, religiose. Vabbè, è una battuta, ci può stare anche questa, dai, su. Comunque no, Parenzo, se non ti va bene sta battuta, hai buttato nel cesso una settimana di Gesù Charlie e puttanate del genere. Bravo, bravo Giuseppe, bravo Giuseppe. La settimana scorsa facevi il fenomeno Gesù Charlie, io qua e là. Sì. Io faccio ste battute e tu te la pigli, perché Gesù Charlie, non tu, sei un pagliaccio. No, preferisco, non, dopo quello che ha detto, non parlare con lei. Ma perché? Che ha detto? Addirittura. Ma che ha detto? Charlie nel cesso e vai. Dai, su, David. Adesso, te lo dico, te lo dico con veramente adesso, con te lo dico anch'io, preferisco. Ma dai, ma ha fatto detto una battuta, dai. Ma noi Riccardo da Roma, ma le battute, lascia perdere Giuseppe, le battute sull'olocausto, le battute sulla Shoah esistono, le facevano, le fanno, io per esempio non l'ho mai fatte. Woody Allen le fa le battute sull'olocausto. Woody Allen, ragazzi, buttiamo nel cesso Woody, ma certo Allen, che le fa Woody Allen. Woody Allen le può fare e Giuseppe da Parma non le può fare. Non ho capito, Parenzo, non ho capito questa questione. Me lo spieghi, per favore. Intanto è un po' diverso, perché non mi sembra che Woody Allen faccia le battute come ha come fatto no questo signore qui. E, ma che c'entra? Ed è un umorismo un po' diverso. E posso dire che mi disgusta questo tipo di battuta, però semplicemente perché io ho una sensibilità diversa. Sei diventato incredibile, guarda, perché... Ma il fatto di aver avuto un parente nello ma non c'entra niente, ma nessuno nega questo. Andate, gli dico, andate avanti. Ma nessuno nega questo. Ma nessuno nega questo. Vai avanti, anche posso però avere il diritto di non parlare con questo qua. e di non ridere e scherzare. Posso Renato da Roma, Renato da posso Roma. Averlo il diritto? Sì, ma certo. Io non voglio parlare con questa persona. Va bene, dai Giuseppe, mi dispiace, ne va così. Renato da Roma. No, dispiace a me veramente. No, dispiace a me. Renato da Roma. A me dispiace per quello che ha detto, però. Vabbè, pazienza. Renato da Roma. Ma infatti, pazienza. Sai le cose che dispiacciono a me. Renato, vai. Allora, dicevo, io non sono ebreo, ma mi schiero con Parenzo. Sì. Perché anch'io da adolescente ho fatto delle battute stupide, cretine, cioè, e pieno barzellette sugli ebrei nei campi di concentramento. Io mai fatte in vita mia, mai fatte in vita mia, mai. Quelle di prima sono battute allo stesso livello. Io le ho fatte anch'io, non mi vergogno di dirlo, anzi meglio, mi vergogno adesso di averlo fatto. Ma dopo che sono stato ad Auschwitz non riesco più a ridere di queste cose. E sinceramente. Ma nessuno ride a caso. No, lei può dirle quelle cose che ha detto. Poi si becca. Io non ho detto nulla, ho fatto semplicemente, ho scritto una battuta su Twitter, punto e basta. Cioè non riferita più volte perché è iniziata una discussione. Lei lo può fare. Renato, il punto è molto semplice. Siccome non sono accusabile di essere anti-israeliano, anti-ebraico, antisemita e tutto, mi posso permettere, rispetto a un fatto specifico, non a cazzo di cane, cioè non rispetto a un evento, cioè rispetto ad un fatto specifico che è successo ad una persona che conosco, peraltro, a maggior ragione rispetto ad una persona che conosco e non rispetto ad un fatto che non conosco o a situazioni che non conosco, penso di potermi permettere una battuta di questo tipo. Evidentemente. Non è così. Lei lo pensi, qualcun altro pensa il contrario. Ma no, ma infatti sì, penso che le persone siano. Non riesco più a ridere di queste cose. No, ma lei. Mi amareggio per lei. Ma lei è amareggiato, va benissimo. Capisco Parenzo. No, ma per carità, io dico semplicemente che. Io dico semplicemente. No, ma non c'è dubbio. Io capisco chi può rimanere male per battute del genere. Il punto fondamentale è un altro. Cioè, è che se uno, come dire, per un attimo si estranea da quello. Pensa che una battuta si può sopportare tranquillamente, una battuta soprattutto da parte di una persona che si conosce, invece non è così che vuoi fare. Alberto, Reggio Emilia, vai. Alberto. Pronto? Non hai aperto nessun caso, No, ma hai aperto di un caso. Come? Poi Alberto. Quella, ti ho detto che l'avrei avuto così, ma poi dopodiché va bene. Benissimo. Alberto, vai. Allora, io volevo dire chiaramente che proprio mi ha fatto sbudellare da ridere l'avventura che ha avuto Parenzo, ben lista, meritato proprio. Anche questo è una goduria proprio della dello spirito. Cioè, io è tutt'oggi che rido a pensare con Parenzo chiuso là dentro che è uscito come un verme da quella finestra. Mamma mia. È uscito come un verme, amico mio, che c'entra il verme? Perché? Uno era chiuso là dentro, ha cercato di uscire aprendo una finestra. Sì, ma proprio guarda, è come quei coglioni. Rimango chiusi dentro il cimitero, i poveretti sono là che chiamano, cercano perché non sanno uscire. È una figura, guardi. Ma comunque, a parte quello, è il meno, condivido pienamente invece le tue posizioni sulle battute, perché se facciamo la satira su Allah, non si può dire niente, perché no, perché Allah, la satira su Allah, no. Se invece le facciamo sugli ebrei, salta per aria tutto, non si può dire niente. Vorrei ricordare a Parenzo, ma infatti che gli ebrei che sono morti in tutti i casi, sono 6 milioni. La satira che ha fatto lì l'amico Charlie Hebdo ha preso per il culo 1 miliardo di persone. Ora, dire che con le satira e le tue battute, quello del mio collega prima di Parma che ha chiamato dicendo che vabbè, una battuta se vuole anche stupida, cretina, ma prendiamola leggera, da queste parti si dice tola su dolcia. Prendila su dolce e va bene, una battuta ti può dispiacere. Ma infatti io sono il primo che fa le battute, non è che alcuni se le possono permettere, invece altri non se le possono permettere. Reputo che ci siano alcuni argomenti, alcune cose sulle quali secondo me sulla Shoah, dunque, secondo te non si possono fare battute, capire. Ma si possono fare le battute sull'Islam. No, ecco, bravo, grazie della cosa. No, del merito. Io penso che le vignette di Charlie Hebdo, le ho anche detto, reputo non fanno ridere, sono molto offensive quelle che hanno ritratto Maometto, come quelle che hanno ritratto la Trinità, il trenino dimensione sessuale della verità, cioè le reputo non divertenti e anche offensive per chi crede nella Trinità. Cioè quasi tutte praticamente, allora, cioè qualsiasi vignetta sul Papa, allora perché un Papa il Papa no, è alcune diverso, sì, altre no, se le fa se le fanno alcuni fighi bene, se le fa un ascoltatore che chiama no perché è sfigato, no, scusa, è diverso. Il principio è esattamente questo, guarda. La rappresentazione di Maometto è una cosa. La rappresentazione, senti, la satira o è a 360 gradi oppure non è, questo è il punto fondamentale. Poi uno è legittimo che uno possa offendersi, perché cose che urtano la sensibilità delle persone. Ma tutto urta. No, perché la religione, perché la religione no e i vegani sì, devono essere presi per ma il culo. Prendere, ma è una cosa pazzesca. Ma con questo principio, perché i comunisti? Maometto. Perché i comunisti non possono pigliare per il culo i comunisti? Cioè, perché devono essere presi per il culo, poveracci i comunisti? Che ti hanno fatto? I fascisti, i comunisti? Perché Mussolini si può pigliare per il culo? Uno potrebbe, anche la signora Mussolini potrebbe dire no, il mio padre non va toccato. Guarda che incredibile. Cioè, le religioni non si possono toccare e le altre cose invece si possono toccare. Ma non ho detto che non si possono toccare. È una cosa toccare. Incredibile, guarda, quella, è incredibile. La presentazione di Maometto l'ho trovata vergognosa e abbastanza. Ma ho capito, ma quello va bene, poi tu puoi trovare tutto quello che vuoi, ma dire che una battuta che è anche, diciamo, normale in questi casi è offensiva. È una... Ma quale? Quella del signore che ha Ma quel signore di prima ha detto che avevate freddo, forse avevate paura che riaccendevano i forni, ma non è dire che non vuole. Ed è una battuta. Ma non vuole gli ebrei nei forni, questo signore. Ha preso per il culo sdrammatizzando una situazione. Questo voleva fare. Ma questo bisogna capire. Bisogna ridere. Vabbè, ma no, ma non puoi anche non ridere, ma no, non ci parlo. Con questo signore non ci parlo. Beh, certo. Si perde Parenzo, che non arriva nemmeno al tavolo, quindi non è una persona normale. Parenzo nemmeno al tavolo, se lo metti in piedi non arriva al tavolo, quindi non prendiamo in considerazione. Via. Allora, mi segnalano una straordinaria battuta di Woody Allen, che recita così: non nego che ci siano stati 6 milioni di ebrei morti durante l'olocausto. Il triste è che i record sono fatti per essere battuti. Sì, famosissime. Io non me la ricordavo. Famosissime. Scherzava Iosa sull'olocausto, sì, come tu. Mai sostenuto il però è Woody Allen, allora non si può criticare. Invece l'ascoltatore è da Roma o Giuseppe Cruciani, due sfigati qualsiasi, io un po' meno forse, sono invece dei cazzoni che si possono criticare e la gente si può offendere. Così funziona il mondo, così va il mondo per i super snob, per il mondo super snob. Esattamente, infatti non è esattamente così. Ci sono battute che vengono fatte questo livello dai razzisti. Sì. Che è una costante. Beh, che non sono io, chiaramente. Razziste, che non sono io, ovviamente. E che su questo hanno costruito per anni. Vabbè, ma quello è evidente. Quello è evidente, che c'entra? Che io critico. Beh, ho capito, ma siccome io non sono. Che si permette di si dà il caso che non sono razzista. Non in un film come può essere quello di Woody Allen. Sì, ma io non sono razzista e nemmeno l'ascoltatore di prima. Quello è chiaro. Ma so che ne sa? Ma io certamente non lo sono. E l'ascoltatore di prima sicuramente non è un razzista. Vabbè. Giorno del processo a Harry De Luca. Io non condivido nulla di quello che dice Harry De Luca a proposito della TAV, quando ha parlato di della TAV che va sabotata e che il sabotaggio è cosa buona e giusta. Dopodiché penso che mettere sotto processo Harry De Luca come una sorta di cattivo maestro perché avrebbe incitato alla violenza su questa storia della TAV, credo che sia una cosa non ridicola, più oltre il ridicolo. Sentiamo che ha detto De Luca. Se quello che ho detto è reato, continuerò a dirlo e continuerò a difendere le mie parole, lo deciderà il tribunale se sono innocente o innocuo. Quello che ho detto è per me una cosa evidente, che la TAV va sabotata. Allora, io ripeto, dire che la TAV va sabotata, a mio parere, è una follia. Dopodiché, se Harry De Luca dice che la TAV va sabotata, non può essere condannato per questo. Dopodiché, se si prova che invece in combutta con gli anti-TAV, diciamo, ha organizzato un attentato contro la centralina, contro il cantiere, lo prendessero e lo sbattessero in galera. Se invece ha semplicemente detto che il sabotaggio va benissimo perché è un gesto nobile, eccetera, eccetera, usato anche da Gandhi, per esempio, come ha detto, se ne assume la responsabilità di fronte alla sua coscienza, di fronte ai figli, di fronte all'umanità, quello che volete, ma non lo portate, cioè processarla è una perdita di tempo e di quattrini. Non possiamo processare Harry De Luca, ragazzi, ma non perché Harry De Luca, perché non si possono processare le intenzioni. Penso che il verbo sabotare sia molto nobile, sì. Sia un verbo nobile usato anche da Gandhi, per esempio. Allora, è con noi Lele Rizzo, attivista e leader del centro sociale Askatasuna di Torino. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ciao, io penso che ci troviamo quasi d'accordo su questo, il che è incredibile, Rizzo, no? Su questa vicenda di... di come si chiama, di Harry De Luca. Per cui passiamo avanti e passiamo ai 99 post. Senti, tu domani sarai a Cremona? No, domani non sarò a Cremona. E per come mai non partecipi a questa grande giornata antifascista di Cremona? Perché domani c'è il concerto, ho delle cose da fare qui in Val di Susa, quindi non vado al concerto. Organizziamo qualche attentatino, organizziamo qualche puntatina contro la polizia, qualche attacco a qualche cantiere della... che dici? No, non credo. Questo non credo, questo lo credo. Senti, voglio chiederti delle cose molto semplici. Secondo te, è legittimo portare in una manifestazione dei bastoni? Sì. È assolutamente legittimo se quella manifestazione era quella di Cremona, che è una manifestazione che è stata indetta perché un ragazzo è stato ridotto in fin di vita da un gruppo di fascisti, e quindi è assolutamente legittimo, in più per difendersi. Da chi? Dalla polizia, da tutte le cose che succedono all'interno dei cortei. Cioè, secondo te dunque è legittimo andare in una manifestazione con i bastoni e con i caschi, per esempio? Sì, secondo me è assolutamente legittimo. Si chiama autodifesa. Per me è legittimo. A parte che spesso si tramuta in una offesa, non in un'autodifesa, perché mi risulta adesso, al di là delle dinamiche di una manifestazione che possono essere diverse, le cariche della polizia, chi inizia, chi... di solito secondo te inizia sempre la polizia? No, figurati, mica dico quello, non voglio assolutamente dire quello. Dico che in quella manifestazione è giusto fare scendere in piazza così, l'intenzione era andare verso la sede di Casa Pound e chiudergli la sede, quindi... Dunque è giusto se qualcuno... mazze, bastoni e caschi. Ma perché dovete decidere voi di chiudere la sede di Casa Pound? Ecco, no, questo è interessante. Hai ragione, questo è vero, hai ragione. Infatti tocca a noi perché non lo fa nessun altro, perché tutti quelli che ti dicono antifascisti fanno ridere. Scusami caro, a me possono fare assolutamente ribrezzo quelli di Casa Pound per quello che dicono, anzi tolgo il forse, mi fanno assolutamente ribrezzo. Dopodiché, amico mio, siccome viviamo in uno stato di diritto, non penso che si scenda in piazza con mazze, bastoni e o anche caschi e altri arnesi raccattati per strada e si dà l'assalto a una sede di qualcuno. Cioè, secondo te è legittimo, Lele, dare l'assalto, cioè chiudere con la forza una sede di Casa Pound? Ma secondo me sì, tranquillamente. Cioè, però, scusa, sì, adesso, si chiama antifascismo. Però, cioè, tu dici no, la teoria è questa, no? Perché ma io sono antifascista, forse più di lui. Cioè, chiariamo che non è che io reputo l'antifascismo. Calma, io reputo l'antifascismo un valore fondamentale. Allora bisogna praticarlo. Invece, tutti quelli che dicono così come te si ricordano che ci sono i fascisti quando trovano, sai, c'è la cosa che va sulla pagina del giornale o succedono fatti così. Aspetta, fai io penso che ci sia la legge, amico mio. Cioè, penso ad esempio la legge, quella che è una legge sbagliata, cioè la legge Mancino ad esempio, o la legge che prevede il divieto della ricostruzione del partito fascista, penso che questi cancellino queste leggi. È una buffonata, no, per il 25 aprile basta, dai. Secondo te l'antifascismo va praticato in maniera quasi militare praticamente? No, militare assolutamente. Cioè, ovunque siano i fascisti, un fascista va colpito, questo è il punto, la domanda finale. Perché se uno dice che le sedi dei partiti fascisti vanno chiuse, evidentemente per te è legittimo colpire un fascista. Ma non si tratta di colpire un fascista, si tratta che i fascisti hanno ridotto in fin di vita un ragazzo di 50 anni. Quello è il caso singolo. Al caso singolo uno risponde. A parte che le indagini non le fai tu, non le fa il centro sociale di Cremona, non le fanno quelli che sono scesi in piazza, ma le fa la polizia. Infatti, che 9 su 10 tante volte para proprio il culo a questi fenomeni. Cioè, secondo te la polizia para il culo ai fascisti di Cremona? Ah sì, ma quello è una cosa abbastanza risaputa e scontata. Se si devono girare da una parte o dall'altra, è chiaro che non guardano da quella parte lì. La legge Mancino è una buffonata perché non viene mai applicata, e quindi questo è. Però ti dico, so che il dibattito è interessante sulle forme di come si scende in piazza, ma il fatto è importante. Cioè, un ragazzo è in fin di vita, continua a lottare adesso tra la vita e la morte, quindi ma è assolutamente necessario fare tutto quello che si può. Poi purtroppo tocca sempre agli antifascisti e ai centri sociali fare queste cose. Forse chi lo fa in altri modi ben venga, ma invece è sempre un coro di capiamoli e tutte queste cose. No, in una democrazia, Lele, no, però ma so che tu, lui, però so non che si tu può no. finire all'ospedale per una vabbè, ma questo qua siamo tutti ma siamo tutti d'accordo, ma lui ce le vuole mandare la gente in ospedale, però. Lele Rizzo ce la vuole mandare la gente in ospedale. Cioè, lui pensa che se un fascista viene colpito è legittimo. Io avrei detto no, però preciso una cosa, io avrei detto la stessa cosa se dall'altra parte ci fosse stato in fin di vita in coma un ragazzo di Casa Pound. E tu non l'avresti detto, Lele? Cioè, io sì l'avrei detto, perché e Lerizzo invece? Lerizzo lo dice o no? Cosa devo dire? Cioè, che se colpiscono, se mandano in coma uno di Casa Pound, un fascista? Io l'ho detto, però è che poi non si per dica te è violenza? Parente. Per te è violenza? Ma sono altre cose. Ah beh, certo, è violenza. Il suo mondo è pieno di violenza, quindi è violenza. No, io voglio capire, i fascisti, secondo te, vanno presi d'assalto, cioè vanno colpiti senza pietà? Lasciamo perdere il caso di coso. Se uno si dichiara, io sono fascista, che bisogna fare, secondo te? Provo pena e due bei calci in culo gli fanno bene sicuramente. Calci in culo così, diciamo, sì, calci in culo fanno sempre bene. E una bastonata in testa pure? Ma può anche fargli bene quello, è chiaro. Niente. Che tutto c'ha dei limiti, No, insomma, sì, no, cioè, la vita umana è sempre importante. Beh, la vita umana è importante, scusa, però se i centri di Casa Pound a Cremona erano aperti, diciamo che mettiamo che c'erano una sede di Casa Pound a Cremona aperta, non è che quei signori lì con i caschi e quei bastoni entravano lì, chiudevano e poi agli altri dicevano uscite cari, potete uscire, accomodatevi fuori, no, non è, sai cos'è? Non è con i secoli, ma ripeto, è interessante, lo immagino, ma non è con i secoli, ma la verità è che c'erano centinaia di forze dell'ordine a proteggerli come sempre. Buon, quelli avevano chiuso la sede e messo anche un cartello vendesi per non rischiare assolutamente niente. Sono quelli che di notte fanno gli agguati in 10 contro 1 a un ragazzo perché magari è diverso, è riconosciuto come militante di sinistra perché è successo e ci sono dei morti recenti da questo punto di vista. Quindi quelle sono quelle persone. Da lì in poi a me non interessa. No, ma d'accordo, però io voglio capire una cosa. Tu quando vedi della gente, 200 persone come è successo a Cremona con i caschi e con le mazze in mano, pensi che quelli là siano difensori veramente della democrazia? Non di questa democrazia, di un'idea giusta di democrazia, di libertà e quant'altro. Sì, ti ripeto, i 200 con i caschi e bastoni sono obbligati a scendere in piazza proprio perché non ci sono i famosi democratici che fanno tutte le cose che dovrebbero fare. Le banche che c'entrano? Ma le banche sono un effetto collaterale di quella giornata. Dai, adesso facciamo un sondaggio su chi gli può dispiacere se una vetrina di una banca si rompe. Adesso vorrei proprio sapere. Cioè, non dispiace a nessuno se una banca. Ma chi se ne frega? Poi dopodiché non ma è scusa, quello la giornata. Nella società, esistono un minimo di regole. Se io vado per strada senza essere. Ma le regole sì, quando sono giuste si rispettano. Ma guarda che io quando giro per strada non è che tiro giù tutte le vetrine. Certo, perché ti arrestano subito se non sei in una manifestazione. Se sei in una manifestazione. A me guarda, ti dico la verità, a me mi arrestano più per quello che penso che per quello che faccio, e tanti di quelli come me. Quindi oggi guarda, sono qua in Val di Susa, ci sono dei ragazzi che sono presi 4 anni e mezzo di galera per non aver fatto veramente nulla, perché sono le carte processuali. È una cosa complessa. È complessa, però la giustizia è questa roba qua. Vabbè, però scusami Lele, il punto fondamentale è questo: se io giro per strada e tiro un sasso a una vetrina di una banca, dopo 2 minuti arriva la polizia, mi riconosce e mi mette in galera. Infatti nessuno ha fatto quello. E chi l'ha rotte le vetrine? Era un corteo, volavano centinaia di lacrimogeni, di robe. Cioè le vetrine sono cose simboliche, chi se ne frega, cioè, della banca, e le auto incendiate? Non mi risultano auto incendiate. Ma come no? Le auto incendiate come no? I vigili urbani presi d'assalto? I vigili urbani presi d'assalto, questa sinceramente non lo so, non è una delle cose che mi rientrano tra quello che penso, quindi no. Cioè se l'hanno fatto è sbagliato, però salviamo almeno i vigili urbani. Io dico che le cose vanno sempre fatte con senso, l'obiettivo era i vigili urbani. Quelli su quelli come te o altri che si lamentano delle multe, sai, queste robe qua a me non me ne frega niente, non assalterò i vigili urbani, l'obiettivo non le paghi le multe. L'obiettivo è un altro, quelli no, certamente cioè, dici le però buste, dici, le banche per esempio le banche ma le banche si possono assaltare le banche? Ma che assaltare? È giusto rompere le vetrine, non se non... No, non piango, no, ti dico che non piango, non mi scandalizza, non piange, non è una ti banca. È una c'è banca. La gente che piange quando va in banca per i problemi che ha, che me ne frega me di una vetrina. Però il vecchio slogan, quando vedo un fascista, com'era la storia, Parenzo? Quando tu... vedo un punto nero ci sparo a vista, c'ho un rigurgito antifascista. Che è una canzone anche dei 99 Boss. No, ma è un bello... I 99 Boss sono coerenti. È un bello slogan, secondo te? È un bello slogan? Sì, è uno slogan così da vecchi tempi, una bella canzone, nessuno ha sparato mai nessuno, quindi no, sparato in passato, no. Sì. In passato sì, però è vero. Vabbè, che adesso non è che uno può andare in passato, ma perché tipo... dopo le mazze non possono venire le pistole, secondo te o no? Sì. No, è lo stesso concetto che dopo la canna viene l'eroina, dai. Beh, insomma, adesso non ci credo che lo pensi, quindi no, è vero, sì, non lo penso. Non necessariamente si passa dai bastoni alle, ma semplicemente perché magari ci hanno paura, capito? Perché con le pistole poi si va su un altro terreno, cioè questo è il punto. Magari lo con i bastoni si può far finire le persone in coma comunque, sì, beh, certo, assolutamente. Scusa se faccio un però in coma c'è un'altra persona. Appunto. Quindi non erano quelli con i, quindi è questo, esatto, il concetto. Quindi, ma infatti cosa sono quelli? Vabbè, ma dunque i 99 Boss, c'è stata un'aggressione nei confronti dei 99 Boss, secondo te, da parte della stampa, dei media, eccetera, una criminalizzazione? Ah. Sicuramente sì, voglio dire, hanno fatto un post su Facebook, proprio nel momento che sono tutti Charlie, no? Col culo degli altri, se qualcuno esprime le proprie idee è stato messo alla gogna e tutta un'altra serie di cose. I 99 Post vanno a fare un concerto, oltretutto per tirare sui soldi per le spese mediche di questo ragazzo, quindi tanto di cappello e ben venga. Vabbè. Ciao, presto, ciao, grazie. Ciao. Mi raccomando, ciao, che qua ti aspettano in tanti, c'è la fila di gente che ti vuole mandare a fare in culo. No, col cazzo, che vengo, che mi faccio menata. Sì, mi aspettano anche con qualche bastoncino in mano, magari. Secondo me sì, è col cazzo che vengo a Val di Susa, io. Venite a prendere qua sotto, davanti al cantiere, qua al centro sociale, abbiamo Monterosa, che ci avete coraggio. Se avete coraggio, che ci sono 40.000 telecamere, tutto qua. No, è che non c'è mica bisogno di queste cose qua. No, l'ho detto, che c'è un sacco di gente che ti vuole salutare. Salutare gentilmente. Gentilmente. Mandarti a fare il culo gentilmente. Ciao, dai. Ciao Leo. Ciao. Stai calmo, se no ti arrestano. Michela, Livorno. Michela, vai. Sì, pronto. Dimmi, cara, dimmi. No, volevo parlare con Parenzo. Eccolo, sta qua, Parenzo, sta qua. Parenzo. Vai, veloce, però, parla a voce alta. Sì, ma parla bene, se non si sente, vai. Non si sente, vabbè, dai, Nicola, Torino. Nicola? Pronto? Dimmi. Pronto, eccomi, ciao Giuseppe, ciao David. Volevo solo dare un piccolo conforto velocissimo all'amico David e anche spezzare una lancia in favore di... Vai, veloce. Io ho un amico, carissimo. Vabbè, l'amico lo salutiamo, lo abbracciamo, ma non abbiamo più tempo. A domani 18.30, ciao. Tu Gruciani, vai a fare in culo Gruciani, è perché tu ieri sera hai chiuso la trasmissione e hai detto vai a fare in culo a tutti. Ma scusa, secondo te questa è una cosa giusta? Noi stiamo a sentire qua che tu ci mandi a fare in culo, secondo te? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Allora vai a fare in culo pure tu, porco due, no? Che cazzo di ragionamenti fai? Ma sei scemo? Radio 24. La passione si sente.